come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo come l'acqua che va al mare, viandanti sulle strade della vita, la vita che di noi non ha pietà, la gioventù che presto se ne va, ma noi ci accontentiamo, ci basta il nostro amor, perché ogni compleanno ci trova uniti ancora. Hai un anno in più, hai compiuto solo ieri. L'orchestra Bagutti, che domani sera sarà protagonista, caro Telese, sarà protagonista. Io sono indignato, qua c'è una campagna contro Fini. Una campagna contro Fini, che c'entra la campagna contro Fini? Sto usando pure l'orchestra per screditarla. Ah, tu dici stiamo usando le musiche che verranno cantate alla festa di Mirabello per screditare Fini, cioè pigliamo ormai in giro il piccolo fratello. Ah no, ma dai, ma perché? Cioè, ci offrono le cose su un piatto d'argento, l'orchestra... Secondo me Tremonti parla con te solo perché tu stai facendo questa campagna. Tu dici, eh? Solo perché io, a parte che non sto facendo nessuna campagna, questa è una tua, come al solito, una tua accusa. Rispondo, perché da me non è mai veduto. E lo so, ma hai visto ieri, sì, abbiamo fatto un colpo pazzesco, anche se poi non ci ha detto niente perché... ma lui dice, chi deve capire capisce. Dici, eh? Comunque non la conoscevi l'orchestra Bagutti? L'orchestra Bagutti è la leggenda dell'Emilia Romagna, ma non l'ho mai sentito nominare prima. Però qualche attinenza questa volta con Futura Libertà, soprattutto nella parte iniziale della canzone che abbiamo sentito, eh? Cioè, risentiamo. Da affrontare più bello ancora sarà. Hai un anno in più, hai compiuto solo ieri. Telese, ci credi che la settimana prossima, ha detto Berlusconi, ci sarà il ministro per lo sviluppo economico? Se l'ha detto lui c'è motivo di non crederci, però ormai la questione deflagrata, non ho scritto Corriere della Sera, l'ho invocato la Banca d'Italia, che deve accadere di più? È una follia che non ci sia stato finora. Senti che cosa ci ha detto Stracquadanio a proposito ieri, a proposito delle interferenze, tra virgolette, secondo lui, di Napolitano su questa questione. Vuole prendere il posto del Parlamento, Stracquadanio, il predellino, eccolo. Napolitano vuole prendere il posto del Parlamento anche. Beh, quando lui dice ci si concentri sull'economia, guardate che viene fatta la legge sulle intercettazioni, altre considerazioni di questo genere, non credo che stia facendo del tutto solo il suo mestiere. Penso che si stia appropriando anche del ruolo del legislatore, il che è un po' fuori misura. Un po' fuori misura. Ma mi fanno morire questi, se lo vorrebbero mangiare si capisce, poi però persino Stracquadanio quando arriva là... Che dovrebbe dire? Che dovrebbe essere, non so, accusato di tradimento? Se lo pensano, ma finisca, mi stagli a inzicare come il nostro mitico intervistato di quest'estate, no? Che prima ha detto che violava la Costituzione, poi ha detto da noi che insomma va bene. Beh, Stracquadanio quasi l'ha detto ieri sera, che insomma sta travalicando i suoi... Beh, effettivamente quest'ironia continua, no? Ma ci sta, abbiamo esaltato il Cossiga picconatore, figuriamoci se non possiamo essere soddisfatti per il Napolitano. Quando, picconatore, quando vedo un napolitano col cappelletto mi stilinguisco, è fichissimo. Devo dire anch'io un'altra frase e poi visto che porta le scarpe da tennis, Ma secondo te potrebbe potrebbe si mette le scarpe da tennis, potrebbe cossighizzarsi ancora di più negli ultimi anni del suo mandato, secondo te? Ma, infatti per un po' lo vedremo anche, che ne so, con le rive trasmittenti, oppure con Chiambretti che cerca di intervistarlo alle Iene, che ne sai. Allora, Matteo Renzi, sindaco di Firenze, una frase mitica su Bersani qui alla Zanzara ieri sera, grazie a David Parenzo che ce l'ha passato al volo. Io come candidato anti Berlusconi non lo voterei manco morto. Sentiamo. Secondo lei Bersani non è la persona giusta per battere Secondo Berlusconi? Secondo me bisognerebbe avere il coraggio di aprire una pagina nuova, sì. Siccome oggi D'Alema ha detto alla festa del Partito Democratico io invece alle primarie voterei Bersani, lei invece alle primarie non lo voterebbe Bersani? Assolutamente no. Lasciamo stare amici. Però abbiamo anche per un motivo preciso, caro Luca, tra noi questa sera Oscar Giannino. Eccoci. Da Milano, collegato dal suo studio di Milano. Eccoci qua, un saluto a Telese. Non vi ammazzate, non vi massacrate su Ubriatore, no, su altre. Anzi, per questo Renzi, diciamo una prova su questo Renzi che è venuto. Anzi, tu ce l'hai. Io sono un renziano, te lo dico subito. Io sono un renziano. Spara dritte per dritte. Sì, sono un democratico che si capisce che dice. Non so come amministra Firenze, come sta amministrando Firenze, però devo dire che insomma le dice. Tu che dici, Oscar? Ma secondo me il fatto che lui abbia sbaragliato tutti i candidati diversi delle diverse correnti del partito la dice lungo come sarà in crisi il PD a Firenze, e sta facendo bene, comunica molto bene. Io lo conosco, per di più siamo quasi amici, adesso io non entro nel giudizio, però lo capisco, si sta giocando le sue carte, fa bene così. Qualcuno dice sindaco, perché l'ha messo tutto in riga. Cioè qualcuno dice che potrebbe addirittura uscire dal Partito Democratico, tu ci credi? Io no, secondo me no. No, io non ci credo affatto, lo dicono coloro che ritengono che è meglio liberarsi di un rompiscatole. Allora, però io perché ho invitato questa sera Oscar Giannino? Perché in via del tutto eccezionale, e vi assicuro, in via del tutto eccezionale, questa volta non abbiamo dovuto fare grossi sforzi diplomatici perché c'era già un canale, insomma, avviato, oliato da giorni. Poi evidentemente ieri si è trovato bene, nonostante qualche polemica con Telese, poi anche con Parenzo, per il secondo giorno consecutivo in collegamento dal Ministero dell'Economia, Giulio Tremonti, buonasera ministro. Buonasera, comunque la correggo immediatamente, Cruciani, non mi sono trovato bene e lei lo sa benissimo. Ho accettato quest'oggi il suo invito perché avete un'autorevole presenza, cioè Giannino, che io saluto con la massima cordialità. Io ricambio il saluto del ministro, io rimango abbastanza senza parole rispetto alla potenza di Cruciani, però io ricambio il ministro e tenterò di difenderlo dai cattivoni, perché è ovvio che mi si è chiamato solo per questo. Cruciani non me l'aveva detto perché io ero oggi in collegamento, adesso capisco. No, noi l'abbiamo comunicato alla segreteria del ministro Tremonti e devo dire, quando Tremonti, che non voleva venire naturalmente perché ieri c'era stata qualche piccola polemica, perché poi non è che Giannino, non è che Tremonti si può concedere così alla Zanzara un programma che per carità non è un simposio di Cernobbio, non è Cernobbio con Barisone. Guardi, veniamo per gentilezza al dunque, ripeto, mi fa piacere poter colloquiare con Giannino. Cruciani veda di moderare magari quest'oggi le parole, ieri le cose non sono andate propriamente bene. Ho capito, perché lei vuole anche una fastidiosa rinite allergica che ogni tanto mi costringe a deglutire, quindi ho anche difficoltà di parola quest'oggi. Quindi, scusi, per cortesia. Sì, ho capito, ma che cos'ha, scusi, una rinite allergica, che cos'ha? Sì, una fastidiosa rinite allergica che ogni tanto purtroppo mi tormenta, ma lasciamo perdere le cose mediche che non c'entrano. Non c'entrano. Non ho capito male, però Telese ci vuole escludere questa sera al ministro, cioè vuole parlare solo con Giannino. Non è proprio lusinghiero il fatto di dire che viene solo per Giannino, cioè ieri ha dialogato con noi, ci sono state anche, come dire, delle ruvidezze, ma guardi, è bello Telese, io so, capisco immediatamente dove vuole andare a parlare. Non ha detto niente. Invece io conosco a sufficienza Telese, so dove vuole andare a parlare, dai, per favore. Ma non ha detto niente, Luca. Chiamo Giannino, provaci tu, Oscar. No, io posso rivolgere una domanda al ministro Tremonti? Ma perché tu sei tra quelli, scusami Oscar, tu sei tra quelli scettici, perché ieri molti ascoltatori non ci credevano, tu sei tra questi, cioè sei scettico sul fatto che sia davvero il ministro? No, io io sono scettico, perché io sono abituato alla parola di Tremonti a non metterla quasi mai in discussione, se non di fronte ai numeri, ma adesso non stiamo parlando ancora di numeri, quindi non posso credere che non sia ministro Tremonti, questo è ovvio. Già incominciamo, mi perdone Giannino, vede, viene coinvolto suo malgrado naturalmente da Crociani e da Telese in discussioni che non hanno ragione. Adesso, se mettete in dubbio la mia persona, allora è il caso di salutare immediatamente la Zanzara, che ripeto, cose più importanti. Allora, aspetti, fare, allora, aspetti, scusami, Tremonti, per carità, io stavo riportando semplicemente l'opinione di alcuni ascoltatori, non è che stavo mettendo in dubbio il fatto, la sua persona, il fatto che lei risponda al telefono, per carità, però siccome è venuto dubbio a qualcuno, anche a Giannino per esempio, allora io, Oscar, vai tu, perché lui, hai sentito, tra l'altro, Tremonti pensa che noi siamo, non so, magari dei globali, com'è che ci ha definito ieri Tremonti? Guardi, cioè questo mi viene da ridere, però in effetti fate parte di quella, come dire, di quella frangia di radicalisti di sinistra globalizzanti che hanno portato il nostro paese al baratro, e noi cerchiamo ovviamente di tirar fuori il nostro paese, ci stiamo anche riuscendo col vostro permesso. Senza mettere le mani nelle tasche degli italiani? Guardi, io questo gliel'avevo già, lo ripeto questa sera, un'eventuale prossima finanziaria, dico eventuale, non graverà sulle famiglie, non graverà sui meno abbienti, graverà invece sui falsi invalidi, graverà sugli evasori fiscali. Ricordo che lo scudo fiscale è stato un grande successo del nostro governo. Bisogna ridurre il peso della mano pubblica senza per questo che questo impatti nella vita delle persone che meno hanno. Chiaro? Giannino, a te. Ma Ministro, posso chiederle una reazione? Perché io sono rimasto abbastanza senza parole e incredulo di fronte al giudizio che oggi ho letto su Panorama, un'intervista che c'è di Cirino Pomicino, l'ex Ministro del Bilancio di un'altra stagione politica, che dà un giudizio di lei negando che sia una politica economica che invece tutti in Europa, nel mondo, hanno tutti riconosciuto che l'Italia se l'è cavata bene grazie al freno che lei ha messo al deficit. Sottolineo che Tommaso Padoa-Schioppa, il suo predecessore in un governo di centrosinistra, oggi al Sole 24 Ore, le fa dei riconoscimenti importanti, secondo me imbarazzano un po' il centrosinistra, però riconosce che con lei la guida è stata salda. Poi uno legge Panorama e invece è un po' singolare, perché sull'Espresso così fanno i cattivi, ma questo posso capirlo, è la guerra editoriale italiana, ma su Panorama Cirino Pomicino dice il bilancio è disastroso, è singolare, cioè Cirino Pomicino ha un incarico in questo governo e dice così, invece Padoa-Schioppa di centrosinistra dice l'esatto opposto e gli ricordo. Lei l'ha letta l'intervista a Pomicino, Tremonti? Certamente l'ho letta, ma guardi, io non voglio sindacare quello che va dicendo Pomicino, peraltro credo che Padoa-Schioppa sia sicuramente una voce ben più autorevole nel campo economico, quindi non voglio scendere a polemiche, anche se sicuramente a lei Crociani e soprattutto a Telese farebbe piacere. Ma veramente la polemica in questo caso l'hai innescata a Giannino? No, vorrei io precisare. Ho chiesto l'opinione, non ho innescato polemiche. Ma il modo in cui viene posto un certo tipo, una tipologia di domande, cioè Giannini le fa, Giannino le fa l'ha posta con una certa eleganza, cosa che purtroppo voi alla Zanzara non avete. Telese, ma io non io Giannino un po' compiacente, su, diciamo, perché fra come i giornalisti economici del ministro dell'economia spesso ma Telese dovresti io, riconoscere esempio, le chiedo, che lei dovresti riconoscere che aveva settimana detto mai che condoni ma no Luca aspetta un secondo, dovresti riconoscere come una strepitosa prova della libertà di stampa il fatto che il settimanale vicino al presidente del consiglio, non voglio dire altro, ma vicino, critica Tremonti o no, non è una prova di libertà e democrazia della stampa? Vista a Pomicino in cui si critica Tremonti. Vabbè, comunque rimane questo dubbio. Guardi, ripeto, non voglio scendere in particolari e soprattutto non voglio polemizzare. Il concetto chiave è che in uno scenario globale non possiamo pensare che sia il mondo ad adeguarsi all'Europa. E l'Europa che deve adeguarsi al mondo. Cantava anche Jimmy Fontana, il mondo non si è fermato dai mai un momento. Jimmy dai, Fontana. Giannino, questo però, la citazione di Jimmy Fontana mi fa... Ma perché voi, ecco, voi della Zanzara non sapete, ma io amo un certo tipo di musica leggera, fate cose, voi non fate neanche musica, quindi. Posso chiederle una cosa sulle sue citazioni, Ministro? Prego. Lei ha un po' di perfidia nei confronti della sinistra, che ha citato l'austerità di Berlinguer come modello, poi ha citato Marx, cos'è, gioca fuori casa e vuole vincere fuori casa nel terreno prediletto della sinistra. Perché ha citato Berlinguer? Guardi, le citazioni, lei lo sa che in genere non amo le citazioni e l'autoreferenzialità. Certe volte può succedere in effetti che cada su questo argomento, però non è una cosa rilevante ai fini del discorso che stiamo facendo quest'oggi in trasmissione. Vabbè, Ministro, le posso chiedere altri due minuti dopo il traffico? Sai, ogni tanto abbiamo il traffico, ci dedica altri Guardi, due minuti? Due minuti, perché ripeto, questa fastidiosa rinite allergica quest'oggi non mi dà tregua. E poi ho anche del lavoro, come lei può ben immaginare, Cruciani, ho del lavoro da svolgere. È anche molto importante per il nostro paese. Dagli alli galli, dagli alli galli, dagli alli galli, sono i belli sempre quelli, li ritrovi tutti i giorni e non somigliano a te. Sempre l'orchestra Bagutti qui a Radio 24, la Zanzara, 800 24 00 24. Ancora collegamento eccezionale con il Ministero dell'Economia, con Giulio Tremonti per il secondo giorno di seguito. Poi da Milano Oscar Giannino, da Roma Luca Telese. Io però credo che Giannino qualche piccolissima riserva dopo alcune risposte del ministro ce l'abbia, come molti ascoltatori, sul fatto che sia davvero il ministro Tremonti. Due giorni consecutivi, dai, Cruciani, alla... per favore, dai, non gettiamo così ombre dove non ci sono. Ma del resto, lo ripeto, non c'è da aspettarsi null'altro da una figura come lei, dal passato molto molto radicale. Prego. Beh, ho capito, passato radicale, adesso sì, un breve passato radicale, poi non è che tutta la... era socialista, ministro, non può usare radicale come se fosse un insulto. Ieri le ho ricordato il patto Segni, lei fu nel Consiglio Nazionale del Partito Socialista, non era un... No, guardi, la trasmissione di ieri francamente era disastrosa, era terrificante, non voglio dire, non voglio aggiungere altro. Ma vuole pure prendere il posto dei giornalisti, ministro? Ma noi facciamo il nostro mestiere, facciamo delle domande, non va bene nemmeno questo. Il giornalismo va fatto secondo criteri e secondo un certo equilibrio che vedo dalle sue parti manca. Giannino, come... vabbè. Posso chiedere al ministro un'altra cosa? Perché... Prego. Noi abbiamo il governatore della Banca d'Italia che oggi, parlando a Seul, ha detto che l'Italia deve fare come la Germania. Allora io le chiedo, quando lei ha fatto il rigore alla tedesca in Italia, non è piaciuto molto, adesso iniziano a riconoscerlo. Dovesse dire lei, senza dare un giudizio su Draghi, perché so che istituzionalmente il ministro non dà giudizi sulla Banca d'Italia e lei ha tentato di attenersi sempre a questo. Esattamente, è vero, è vero. Allora, però, se si dovesse dire dal suo punto di vista che cosa dobbiamo fare per fare come la Germania, se uno pensa ai sindacati, la Fiat, eccetera, al mondo aperto, alla globalizzazione che le richiama dicendo noi ci dobbiamo adeguare a loro, la sua ricetta qual è? Vede Giannino, lei lo sa meglio di me che è un discorso molto, molto complicato nel quale convergono e divergono svariate varianti e cose. Certo, la ripresa mondiale resterà con noi e quella europea, dice Mario Draghi, ci sono maggiori probabilità che questa ripresa non ci abbandoni. Questa è la cosa fondamentale. E io sono assolutamente sono assolutamente convinto che la strada che abbiamo ma chi c'ha là intorno, Tremonti, chi ha detto mi lasci finire? Avevo sentito una voce dalla vostra trasmissione in questo momento in ufficio, cioè i miei collaboratori che sono assolutamente silenziosi perché sono persone di un certo livello. Dai Cruciani, per favore, che poi fa altre cose, devo scappare. Mi scusi ministro, perdona. Non volevo interromperla, prego, proseguo. Allora, su Draghi. No, io avevo dato un quadro generale a Giannino. Il discorso è troppo lungo e penso non sia la sede giusta dove affrontarla. Vabbè Giannino, io non so. No ragazzi, allora a questo punto io vinco il mio dubbio. Ha citato tre volte Mario Draghi, non può essere il ministro. No, e mi dispiace, assumo la responsabilità storica di dire, dal mio punto di vista, rischio la testa. No, il ministro evita Tremonti, sempre. Oscar. Il ministro evita io sempre. Io apprezzo molto l'umorismo di Giannino, che sa essere, oltre che una persona competente, anche spiritosa, quindi accetto di buon grado questo suo, diciamo, scherzo e questa sua ironia. Mi sembra che lei ci deve lasciare, no, ministro, giusto? Sì, anche perché c'ho questa fastidiosa rinite allergica che ogni tanto mi costringe. No, però Giannino, perché citando Draghi ti sei convinto che non è lui? Sì, no, io mi espongo a fare l'ironico, ma ho la netta convinzione che noi dobbiamo a questo punto assumerci una responsabilità di fronte agli ascoltatori, che io lascio al conduttore, chiedo anche Luca Telese, abbiamo opinioni diverse, io effettivamente sul ministro la penso un po' diversamente che Telese e gli riconosco tutti i meriti che ha, però nella mia esperienza quel nome non gli esce facilmente di bocca. Cioè, Draghi è un finto velo di sorriso. Non ho capito. Allora sarebbe finto anche il Tremonti che cita Berlinguer, ecco lì la chiave di tutto. No, neanche per idea, la dinamica dei fatti è diversa in questi due anni, assolutamente. Ministro, ancora una volta... Diciamo che è una visione forse un po' ragionieristica, occhiuta e retro del tutto, ma essendo venendo fatta da Giannino, la accetto. Ma quando arriva, ministro, mi scusi, quando arriva il ministro dello sviluppo economico? Lei, diciamo la verità, non lo vuole questo ministro dello sviluppo economico, figuriamoci Baldassarri, che è un suo nemico storico, non lo vuole Baldassarri, no, diciamo la verità. Ma Cruciani, perché dobbiamo sempre... Lei mi fa sempre queste domande con un chiaro intento destabilizzante. Ma dai Cruciani, sappiamo come vanno queste cose. Però non abbassi il telefono, non chiuda il telefono, ministro. Io no, sono molto educato, le mi darà atto, non ho mai chiuso il telefono in faccia a nessuno, mi perdoni. Va bene, grazie. Buona serata, grazie. Buonasera. 18:55 800 24 00 24. Giannino non ci crede, Telese sì, io sì, naturalmente, perché so chi abbiamo chiamato, però il dubbio resta, resta ancora. Dario, provincia. Però è vera questa, è un cambio di marcia ai Tremonti. Ha iniziato citando Marx, poi ha proseguito un Berlinguer, adesso Draghi, forse è vero il dubbio. No, Giannino non ha. Secondo Telese c'è un clone di Tremonti dovunque. Sentiamo Dario dalla provincia di Como. Buonasera a tutti. Buonasera. Io sono scandalizzato perché il vostro è un intento particolare. È chiaramente una topica quella che avete preso se avete spacciato Tremonti per vero. Anche per un fatto che io sono qui proprio con Tremonti, con Giulio Tremonti. Come? Adesso io ve lo passo e poi vedrete voi. Ma no, lei non è con Tremonti, Dario, non scherziamo. Sì, buonasera. Buonasera, senta, io non sono abituato a fare questi interventi in radio in questo modo, dico soltanto che a volte ci si può anche divertire, però la Confindustria ha una radio molto seria e in questo caso Cruciani lei mi sembra veramente leggermente fuori da ogni canone. Canone di cosa? Il canone della RAI, il canone di Confindustria? Cioè, esiste canone giornalistico, in quanto il suo programma, che tra l'altro è anche abbastanza seguito, mi ha lasciato molto perplesso, perché apprezzo l'imitazione, è qualcosa che mi fa anche piacere da un certo punto di vista, per carità, però le dico, è anche a volte un pochino di cattivo gusto, caro Cruciani, e anche i suoi ospiti credo che l'abbiano avvertito questo. Allora io dico una cosa, vi assicuro che tutto questo non era preparato. Innanzitutto, ve lo assicuro, ve lo posso giurare su qualsiasi cosa. Se non era credibile il Tremonti di prima, Oscar, questo di adesso ancora meno, no? Ma io, guarda, non metto una mano sul fuoco su nulla, quindi che se tu mi chiedi è ragionevole che il ministro Tremonti, se lui ha telefono, non possa più di tanto, cioè uno scherzo va bene, ma uno scherzo se è uno scherzo può durare poco, questo è il punto, quindi io non lo so, però devo dire che... Cioè l'ascoltatore secondo te ci ha passato davvero Tremonti, no? No, io guarda, ripeto, non sono io in grado di... Dario, è ancora in linea lei o c'è Tremonti in linea? Io sono qua, chi dovrei essere secondo voi? Non ho capito, io ho apprezzato la citazione, però... devo anche dire che siete giornalisti abbastanza famosi e rispettate il prossimo. In questo caso sono rimasto un pochino colpito perché non mi aspettavo questo tipo di scherzo, o come dire, o anche grottesco. Ecco, questa cosa non l'ho mai sentita, forse perché non ascolto tanta radio e forse mi rendo conto può è un errore mio. Però insomma, chiunque lei sia, se è Tremonti, vabbè, se è Tremonti, c'è il giornale radio, riprendiamo dopo. Eccoci di nuovo in diretta, 1919 800 24 0024, sempre con Oscar Giannino dal suo studio di Milano e con Luca Telese dalla redazione del Fatto. Qui siamo un po' tutti in attesa di capire se la telefonata di prima era una telefonata che aveva come protagonista Giulio Tremonti oppure no. Allora, un attimo solo, perché stiamo cercando di ricollegarci con chi ci ha passato il ministro. Chi ci ha passato il ministro era scettico sul Tremonti iniziale. Prima però, TG3. Industriali e banchieri a Cernobbio, subito il ministro per lo sviluppo. Berlusconi promette il nome la prossima settimana. Draghi, la ripresa c'è, ma l'Italia per crescere imiti la Germania. L'INPS da gennaio ad agosto, record della cassa integrazione. PDL Finiani, fra dialogo e rottura, Bossi aspettiamo Mirabello. Bindi, se c'è crisi, alleanza anche con Fini. Bersani, ripartiamo dall'Ulivo. Milano, Roma, Napoli, Palermo, i precari della scuola si mobilitano, l'avvenire, nessuno speculi ai danni dei ragazzi. Sul negoziato di pace per il Medio Oriente pende la minaccia dei gruppi armati palestinesi che annunciano attacchi contro Israele. Kamikaze a Quetta, 53 morti, quasi 200 feriti. La piena dell'Indo ha devastato intere regioni, un esercito di sfollati senza aiuto vaga nelle campagne. La TV è brutta e volgare, al TG3 la regista Sofia Coppola, protagonista oggi a Venezia con il suo attesissimo film Somewhere. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Tutti lì, Giannino, ci sei? Ci sei o no, Oscar? Ci sono, come no. Telese, ci sei? Presente. Allora, prima, perché ci siamo già ricollegati con Dario dalla provincia di Como, in trasferta evidentemente a Roma, dice lui, evidentemente dal Ministero dell'Economia, vi faccio sentire questa cosa. In realtà bisognerebbe vederla, potete andare tranquillamente su YouTube a vederla, perché è stata trasmessa dalla televisione del Partito Democratico, da, come si chiama? UDEM, no, Telese. È una cosa eccezionale. È un'intervista a Rosi Bindi. A Rosi Bindi, sentite in che contesto, bisogna vederla in realtà, bisogna vederla, però dà l'idea anche la voce dell'intervistatrice e della Bindi, sentite. Buonasera a tutti, cominciamo questa sera una serie di interviste che faremo qui alla Festa Democratica. Come meglio cominciare che con il presidente del nostro partito, che si sta giustamente gustando un gelato perché immaginiamo non abbia ancora cenato. Questa è la cena. È la cena, brevissima, una donna di essenziale. Se ceno per tutte le feste che faccio non so come divento. Bella sei già bella, noi piaci così. Presidente, ti facciamo un paio di... posso darti del tu? Ti piace che ti diamo del tu? Benissimo. Tre rapidissime domande. Vi assicuro domande. Che stava... come d'accordo, vedi? UDEM, ma le immagini girano! Stava mangiando un gelato, lo gustava in questo modo. Eccezionale, dovete vederlo. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Allora, senta, Dario dalla provincia di Como, basta con questa storia che lei ci ha passato Tremonti. Non ci crede nessuno, diciamo la verità, su, non ci crede nessuno. Siamo noi che non crediamo al circuito mediatico che state organizzando da ieri, sinceramente, ed è sconcertante perché voi siete persone serie, tra l'altro. Cioè, lei dice, siccome siamo alla radio del Sole 24 ore non possiamo scherzare, o comunque non possiamo scherzare così tanto su una cosa importante, il ministro dell'economia, lei dice, no? Ma a parte che questa è la zanzara e dunque è una cosa un po' un'oasi, un po' diversa rispetto al resto. Primo. Siamo d'accordo, però Giulio è sconvolto, io ce l'ho qua, adesso non so se voglio riparlarvi, però è rimasto male perché è un brutto scherzo, sinceramente, anche perché lascerà degli strascichi, penso. Quindi lei dice? Certo, è pericolosissimo. Strascichi di che tipo? Lei dice? Ma forse legali. Adesso Giulio, vuoi parlargli tu? Ma scusi Dario, sì d'accordo, un attimo solo, però noi come possiamo credere che ci sia una persona che ci chiama, che si presenta dalla provincia di Como? Ci spieghi un attimo innanzitutto che cosa fa nello studio di Tremonti. Io sono un suo collaboratore da 15 anni. Lei è un suo collaboratore da 15 anni? Siamo amici, stiamo girando insieme, stiamo facendo alcune cose. State girando? Che state girando? Come si, che sia state girando insieme? Stiamo girando degli spot pubblicitari con lui. Per cui ieri eravamo in macchina. A me non risulta che Tremonti in queste ore stia girando gli spot pubblicitari, Dario, ma non è credibile, su. Così come non è credibile l'altro Giulio Tremonti, che tra l'altro è bravissimo, per carità, ma si capisce che è qualcosa di artefatto, che non è per nulla vero. E noi perché dovremmo, scusi, perché dovremmo credere che questo è vero invece? Perché Giulio Tremonti è davanti a me ed è il vero ministro. Giannino, tu che dici, Giannino? Guarda, io a questo punto aggiungo il giallo nel giallo, perché voi mi avete fatto prendere uno spaghetto per un quarto d'ora, nell'ultimo quarto d'ora, quando il collegamento è caduto, perché il caso, che ci mette sempre lo zampino, ha voluto che un minuto dopo abbia squillato il mio telefono e io mi sono trovato a telefono Giulio Tremonti. Allora, Giulio Tremonti, che mi sono trovato il telefono io. Un attimo solo, Dario dice un'altra cosa, aggiunge. Dario, gli ha telefonato esattamente proprio per dire: sei impazzito, ma cosa succede? Ma cosa sta succedendo? Ecco, è vero. Io posso dire che, ohimè, Giulio Tremonti invece mi ha parlato delle cose di giornata, eccetera, eccetera, non ha fatto alcun riferimento alla trasmissione, era su un'automobile. Nel senso che si sentiva chiaramente che era in spostamento, non era affatto nel suo studio al Ministero dell'Economia, quindi intanto mi prendo la responsabilità di dire che il secondo Giulio Tremonti, quello che ci ha chiamato, sicuramente non è quello vero, ecco. Poi quanto al primo, su questo è Cruciani che dirà al suo pubblico è vero o non è vero, perché è lui che fa i collegamenti, quindi sa dove l'ha chiamato. Ma sul secondo, il caso vuole che il terzo Giulio Tremonti, che di sicuro è quello vero, perché mi ha parlato nei termini in cui ci parliamo spessissimo, eccetera, facendo un punto sulle cose di giornata, parlando di cose che solo il ministro può sapere, il CICR in riferimento a un paio di banche e così via, quindi quello che ha chiamato me, che non si è riferito alla telefonata, quindi per fortuna non era in ascolto. È sicuro che non si è riferito? È sicuro Giannino, che non si Giannino, mi scusi un momento. Allora, scusami un momento, Oscar, perché a questo punto non erano questi gli accordi che avevamo preso al telefono. Ti avevo chiesto di non rivelare questa telefonata e tu invece lo hai fatto, Giannino. No, assolutamente no. Adesso mi trovo in difficoltà, in grosse difficoltà, anche nei tuoi confronti, non solo di tutta la trasmissione radio. No, assolutamente, quindi dobbiamo rassicurare i nostri ascoltatori questo non è il ministro, assolutamente. Va bene, allora vorrei dire che sono una russa, cosa vi devo dire? Che cambierò faccia, cosa devo dirvi? Telesia, tu che dici? Che mi sembrano tarocco questo Tremonti di Como, però c'ero caduto, perché è molto molto grintoso. C'eri caduto? Bisogna fargli un esame, secondo te era più credibile quello di prima? Il primo mi sembra più credibile perché, ripeto, nonostante Giannino sia scettico, c'è questa evoluzione del personaggio, un po' più pop, un po' più eclettico anche culturalmente. Facciamo sempre i test politici, cioè chiediamo a questo Tremonti perché c'è questa svolta, come dire, filo-berlingueriana, questa evocazione di Marx, chiediamogli come mai non ha detto nulla quando Bersani ha fatto il suo nome come possibile premier, è curioso. Però, pseudo ministro Tremonti, lei è ancora in linea? Sì, sono sempre qua. Dove è nato lei? Sono nato a Sondrio. Ah, giusto? Giannino? Io il collegio ha frequentato? Io sono un valtellinese doc, devo dire, e sono contento di venire da Sondrio perché... Giannino, un'altra domanda però, che collegio ha frequentato, ha chiesto Giannino? Beh, adesso non voglio dire tutte le mie cose personali alla radio perché non credo che sia possibile. Sul collegio si cade. La posso aiutare, le posso dire che è un collegio a Pavia, ma non le dico quale, perché come nota sono due in grande concorrenza storica. Lei dovrebbe dire quale dei due. Non erano questi gli accordi che avevamo preso precedentemente. Domani, no, per favore, non parlare di queste cose. È caduto, domani. È caduto, è caduto. Borsa, grazie. Chiaramente non è il vero Tremonti. Quello di prima? Ragazzi, dai, su, non è difficile capire se quello di prima, il primo, è vero o falso. Non è complicato. Oscar, grazie. Prego. Grazie. Telese. Buonasera. A domani. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si crede. Allora, riprendiamo la frase di Bersani di ieri sulla Fogna. Oggi Bersani, dal palco della festa dell'Api di Rutelli in provincia di Rieti, ha detto che forse ha esagerato un po' a utilizzare quella parola. Bersani e la Fogna. Al di là della denuncia, di un governo che si denuncia da solo, francamente. Abbiamo visto in questo agosto terrificante come il secondo tempo del berlusconismo possa far regredire la politica alla Fogna. Questo è il rischio che abbiamo davanti. Questo paese. Ho già detto, forse ho usato una parola un po' esagerata, però c'è stato anche l'intervento di Emilio Fede sulla parola di Bersani, sentite. Se il capo dello Stato si augura l'evoluzione benigna della politica, Bersani, che è leader del Partito Democratico, arriva a definire con un insulto irripetibile la maggioranza che si riconosce in Berlusconi. Ed è questa, in questa frase che non riportiamo qui perché non è possibile, dignità del linguaggio, riportarla, forse la conferma di quanto questa opposizione si trovi nella pericolosa confusione di strategie per quanto riguarda il futuro. Parenzo, anche questo è cinema, David, non citare la parola fogna da parte di Fede. Ciao David. Ciao, come andiamo, direttore? Non c'è male, non c'è male. Allora? Non posso rivelare dove sono. Perché? Come Tremonti? No, perché sono inseguito dai sicari di Otelma. Otelma. Il mago Otelma mi ha dato degli strali. Sì, beh, lo sappiamo, li facciamo riascoltare tra poco, tra l'altro. Non posso rivelare dove sono. Tra l'altro, caro David, hai saputo, sì, si è aperta la corsa al soglio pontificio dopo le dichiarazioni di Otelma ieri, si è aggiunta un'altra persona oggi, fra poco ne parleremo. Tal Don Verzè, insomma, un po' più seriamente di Otelma, devo dire. Però, ma per argomenti anche forti. Argomenti di sinistra quasi, da prete d'assalto, no? Di quelle le primarie non le fa il PD, le fanno in Vaticano. Fantastico. Allora, dove eravamo? Renzi non avrei detto fogna ieri sera da voi, là in onda. Io non l'ho detta, però voglio dire, ognuno ha il suo stile. Gli altri dicono che io non dovevo dire rottamazione. Si vede che Bersani sarà stato esasperato. A me non piace. Non piace perché quando provo a dire fogna che Berlusconi è diverso da rottamazione, Fogna è molto diverso. Se lei mi domanda, l'avresti usata? No. Ti piace? No. Dopodiché non faccio il processo alle frasi, perché il problema non sono le frasi, il problema sono cosa facciamo noi. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Parenzo, ti invito a vedere su YouTube una cosa eccezionale. Un documento politico che vale più di, non so, di 100 congressi, di 200 porta a porta, iceberg, non lo cito naturalmente. Sì, no, anche c'è a mille iceberg. A mille iceberg. Ex iceberg, ormai non dobbiamo più iceberg, bisogna dimenticarlo mai, perché no, per carità, insomma, grande invenzione di Daniele, grande invenzione di Daniele di Mercati, tra l'altro, ricordiamo sempre. Come no, noi siamo per il mercato assolutamente. E allora, televisione del Partito Democratico, UDEM, aia. Festa del PD a Torino, doppio aia. Oggi, no, Milano, festa del PD a Milano, scusa, oggi a Milano, sì. Oggi, ieri, non lo so, non importa, insomma, in questi giorni. Intervistatrice che credo di aver riconosciuto dalle immagini, però le ho viste di fretta, e ospite Rosi Bindi. Dunque, situazione certamente familiare, la televisione del Partito Democratico, festa del PD a Milano, non quella principale, però ti assicuro che forse un po' più di... Senti, devi vederla però, bisogna vederla questa. Buonasera a tutti, cominciamo questa sera una serie di interviste che faremo qui alla Festa Democratica. Come meglio cominciare che con il presidente del nostro partito, che si sta giustamente gustando un gelato perché immaginiamo non abbia ancora cenato. Questa è la cena. È la cena, brevissima, una donna di essenziale. Se ceno per tutte le feste che faccio non so come divento. Bella sei già bella, noi piaci così. Presidente, ti facciamo un paio di... Posso darci del tu? Ti piace? Non so se hai capito il contesto. Una donna essenziale. Questa è una frase eccezionale, perché ti assicuro che stava lì sbracata, accucciata, però protesa un po' in avanti, col gelato in mano, si stava gustando il gelato. C'erano le telecamere, bindi! Però è vero. Mi sembra di vederla, da questa tua descrizione mi sembra di vederla. Stava lì con questa, col microfono, che le intervistava, le telecamere davanti. Però a noi piacciono queste situazioni familiari, non le stiamo criticando, sia chiaro. No, anzi, sono quelle che fanno simpatia, che rendono il politico più popolare, no? L'intervistatrice, forse una donna essenziale, se lo poteva risparmiare. Sei bellissima così, a noi ci piaci così. Forse peggio della cosa, della Pravda, della non so di che cosa. Però se non glielo dice Yudem, chi glielo dice, scusa? Ho capito, sempre no, di sicuro. Una donna essenziale e ci piaci così, sei bellissima così, insomma, un po' esagerato. Io non parlerò mai male della Bindi, perché? Se non altro perché è di Finalunga, quindi non posso, per ragioni di toscanità. Vabbè, ho capito. Ma noi non parliamo mai male della Bindi, ogni tanto ci regala qualche minuto eccezionale qui alla Zanzara, figuriamoci. Perle splendide. 800 24 00 24 per chiamarci. Ma uno degli argomenti del giorno, caro Parenzo, è sicuramente Don Verzè e il Papa. Alleluia. Se io fossi Papa, andrei a vivere in Africa. Vi cito solo alcune cose perché è molto lungo, Se io fossi Papa, anziché fare visite lampo con costose comparse oceaniche, mi fermerei nei 5 continenti qualche mese e magari qualche anno a vivervi come facevano Pietro, Paolo e gli altri, trattando con tutti il meglio e più opportuno per quel paese, quella città, quei costumi. Permarrei soprattutto in Africa, perché sono convinto che da là ripartirà la salvezza per tutto il mondo. Non vorrei con me nessun dignitario, né cardinali, ma truppe di medici, truppe di infermieri e di volontari. Ricordo che per una simile proposta Fidel Castro era pronto a darmi 200 medici cubani. Pure Fidel Castro ha citato Don Verzè, l'amico di Berlusconi. Io, Papa, in mezzo a loro, in pantaloncini, in testa un borsalino, o quello già usato da Papa Giovanni Paolo II, regalatomi in cambio della chiave del Cenacolo, quella che mi consegnò il sindaco di Gerusalemme Teddy Kollek, dopo che lo ebbi restaurato, allora ridotto a pollaio, dove nacque la Chiesa Cristiana dell'Amore. Sempre sul cuore il gran crocifisso, ma non d'oro. Mi circonderei permanentemente di bambini, mangerei quello che mangiano loro, insegnerei arte e mestieri, e a mangiar meglio con loro coltiverei la terra che a tutti è in grado di dare alimento, come ha stabilito il Signore quando la creò. Parenzo, lo sai che queste cose scritte da Don Verzè un po' mi hanno emozionato, devo dire, io che sono cinico, eccetera, però... No, anch'io, ma è un grande personaggio. Cioè, io ci credo davvero che lui sente queste cose, Qualcuno dice in contrasto con tutto quello che è lui, il suo rapporto con Berlusconi, la gente non ha capito niente, o no? No, ma anzi, ma lui è sempre stato in grande sintonia anche con il paese. Lui, devo ricordare, è un grande amico di Bettino Craxi, ha creato una struttura importante come quella del San Raffaele. Ma chi lo conosce davvero ne riconosce la genuinità. Il passo, uno dei passi più belli, secondo me, è quando anche lui dice: scenderei da solo, senza bardature, a star con la gente. Scenderei non da sacri palazzi, ma da un semplice appartamento come un buon parro. Ecco, l'opposto di quel divino, cosiddetto divino Telma, che invece si presenta con serpenti sulla testa, vestito di verde, e lui invece, questo buon parroco, senza troppi sfarzi, scenderebbe non da un sacro palazzo, ma da un semplice appartamento. Meraviglioso, no? Divino, ha sentito Parenzo, ancora strali su di lei. Non c'è il divino. Ah, ecco. Non ti preoccupare, non c'è. Però ascolta quest'altro passaggio che è eccezionale, Perché, insomma, alla fine in una paginata intera su Quella Sera ha dato dei colpi alla Chiesa, no? Non da poco, secondo me, o sbaglio? La picconata come Cossiga. Picconò quella fase. Allora, mangerei quello che mangiano loro. Prima ha detto mi circonderei permanentemente di bambini, poi mangerei quello che mangiano loro, insegnerei arte e mestieri, e a mangiar meglio con loro coltiverei la terra che a tutti è in grado di dare alimento, come ha stabilito il Signore quando la creò. Insegnerei, mai sgriderei i vescovi e i sacerdoti se si sposassero. sentite, mai sgriderei i vescovi e i sacerdoti se si sposassero, manco proibirei la pillola anticoncezionale. D'Africa sa già quanto è orrendo l'aborto. Mai per nessun motivo applicherei l'istituto della scomunica. Nulla è più avverso allo spirito del Signore, sempre misericordioso, buono e perdonatore, salvo le ipocrisie e il falso fariseismo. Canterei con loro un salmo, il Salmo 144. Beh, insomma, Vero ritorno al Vangelo. Sì. Vero ritorno al Vangelo. Don Paolo Farinella, buonasera. Buonasera. Dalla parrocchia di Sant'Orpete, Genova. Sì. Lei che sarebbe dice? Saint-Tropez francese. Come Saint-Tropez, lei siamo passati sì, da Don Berzè a Saint-Tropez. L'hanno tradotto con Saint-Tropez. Ma davvero è così? No. Eh no. Sì, Saint-Tropez è sbarcato lì nella Provenza e sul suo corpo hanno costruito il paese di Saint-Tropez. Ma Saint-Tropez è pisano. È pisano. Senta Farinella, sì, ma che pensa di storico. Che pensa di queste storie? Di questo che abbiamo... Guardi, dico semplicemente che in parte Don Verde si può perdonare tutto data l'età adesso. Lei dice perché la che cosa bisogna perdonare? Lei dice che è rimbambito. Lei dice che è rimbambito. La seconda cosa è che è arrivato tardi, perché già nel 2000 io avevo scritto un romanzo intitolato Abemus Papam Francesco, virgola Francesco, in cui smantellavo il Vaticano e abolivo le congregazioni, i cardinali, addirittura il Papa si spogliava in pubblico come San Francesco, andava ad abitare in una parrocchia romana tra le più povere e cominciava a viaggiare da solo con un segretario, dove si fermava il tempo necessario senza portarsi i discorsi scritti da però Roma. Mi scusi Don Farinella, con tutto rispetto, lei è Don Farinella, questo è Don Berzè. Lo so, adesso lui può dire tutto quello che vuoi, ma la domanda è perché non ha cominciato a fare queste cose lui. Cioè, lei troppi soldi girano intorno a Don Berzè. Certo, dice. Perché poi tutta la storia di una persona e anche il contesto in cui le cose che dice devono essere valutate. Mi dispiace per chi Perché le dice secondo lei? Perché è un po' amico di Berlusconi, cioè. E perché non si può essere amici? Non si può essere amici di Berlusconi, Don Farinella. Non credo. Come non crede? Non credo, non si può essere amici di Berlusconi così com'è Berlusconi. Perché non è un buon cristiano Berlusconi? Assolutamente no, perché un corrotto è un corruttore, è un... Ma lei è un prete, Don Farinella, no? Ma io dico semplicemente le cose come stanno. Ah, quindi lei non la assolverebbe? Ci sono anche delle sentenze di un tribunale, insomma. Ho capito, ma la Chiesa è diversa dal tribunale? Certo, almeno mi avevano insegnato, però lui è un presidente del consiglio, lui è un presidente tutti, del no? consiglio che dovrebbe fare gli interessi della nazione, non i propri. Vabbè, ma scusi, però qui stiamo parlando non di Berlusconi, ma stiamo parlando di certo, però voglio di Don dire Berzè. Che lui, che la Selleve, se voi conosceste la storia di Don Verzè, che è parallela a quella di Berlusconi, voi vedreste che sono andati quasi di pari passo. Dunque lei dice, siccome amico di Berlusconi, che è un corruttore... No, non dico siccome amico di Berlusconi, constato che è stato amico di Berlusconi, probabilmente hanno fatto moltissimi affari insieme. Ecco, dico questo, che lui affari sporchi tutto. Affari sporchi, lei dice? Penso anche, credo anche. Beh, no, queste sono accuse, Don Berzè, ma Don Berzè, ma Don credo Berzè. Anche perché ha costruito delle opere, simpatico, ma ha costruito delle opere in giro per il mondo, no? Scusi, Don Farinella, Parenzo dice, scusa Davide, che stavi dicendo? Ha costruito... No, ha costruito degli ospedali in giro per il mondo, ha insegnato dei mestieri, però siccome il fine non giustifica i mezzi, dobbiamo vedere anche come ha fatto tante cose, almeno alcune, qui parlo dell'Italia, perché non conosco quelle che ha fatto fuori, ma qualcuna in Italia la conosco, tipo alcune opere che ha fatto a Roma, oppure la sanità. Ma lei sa che ha messo il professor Massimo Cacciari è stato rettore dell'Università del San Raffaele, un uomo come? Sicuramente di... Anche il professor Cacciari, dice Cacciari Parenzi. Ha lavorato Cacciari con Don Verde, d'accordo, ma Cacciari dire. Voglio dire, Cacciari può dire quello che vuole, io posso dire quello che voglio, io come? Non ho da inzuppare il pane da nessuna parte. Chi è che deve inzuppare il pane, mi scusi? Cacciari è il suo professore, lei dice, è stato rettore dell'università, anzi un segno di grandissima apertura e di modernità. Anche la figlia di Berlusconi è andata all'università di Don Verzè. Lei dice tutto, magna magna. È già con la prelaurea gli ha offerto un posto da insegnante, che non lo offre a nessuno. Lei dice tutto magna magna. Lei mi pare un prete molto IDV. Molto IDV, lei è un prete un molto parroco IDV. Molto IDV. Don Paolo, molto IDV. Molto Italia dei Valori. Molte, traduciamo. Molti Italia dei Valori. Oh, no, no, no, assolutamente, anzi. No. Italia dei Valori non la voterei perché ha imparato presto il mestiere degli altri. Oh, anche lui. Okay, questo è sì. Vabbè, tutti con tutti all'inferno. Tutti all'inferno. Questa è versione Micromega, però, Don Farinella. Come? Versione Micromega, lei. Dove tra l'altro ma scrive perché mi dovete dare un'etichetta? Io sono Paolo Farinella, prete che ha dedicato tutta la sua vita agli ultimi, ha mangiato con gli ultimi per beh, una è quello vita, che è quello che vuole fare Don Berzè per una vita è quello che vuole fare Don Berzè non accetto, io l'ho fatto ho da capito una vita, ma Don Berzè ha detto se fossi papa io non capisco, salvare delle vite è una cosa importante cristiana, per me dovrebbe essere valido per tutti, ma voglio dire, Don Verde ha salvato molte vite, risposta, sì, lo ha fatto in Italia, l'ha fatto all'estero attraverso i suoi ospedali, ha lavorato affinché la ricerca scientifica sia libera, ha certo, superato certo, quel, quell'antigalileismo che la Chiesa ha avuto negli anni più oscuri, sì, e ma quindi il giudizio va dato su questo. Io non metto tutto in un calderone, so ancora distinguere e ho anche ancora una capacità di discernimento. Io mi stavo riferendo alle cose che lui diceva in questo articolo, che contraddicono completamente la sua vita personale di prete, punto. Bah. Non metto in discussione tutto il resto, anche se tutto il resto non dovrebbe farlo lui come prete, perché come prete credo che lui con Paolo VI avesse qualche problema. Mm. Vabbè, adesso andiamo alla storia di che problema aveva. Che problema aveva? Se voi parlate, se volete parlare di una situazione. Che problema aveva con Paolo VI? Che problema aveva con Paolo VI? Come? Che problema aveva con Paolo VI? Mi sembra, se non vado errato, mi sembra che gli avesse chiesto di non fare più il prete. Paolo VI perché? Paolo VI. Per i suoi affari, lei dice? Per fatto sì, di... per i suoi affari, perché non erano assolutamente, ma a me non mi pare, come allora, come adesso. Ma era un po' di dossieraggio questa, Il dossieraggio di Don Farinella. Vabbè, lo dirà la storia queste cose qui. In però ogni caso, alleluia di nuovo, voglio leggervi ancora qualche passo, alleluia, Farinella, resti lì. Parenzo, questa è bellissima. Il Vaticano? Ne farei un oracolo di Delfi per ogni sapere. Per qualche tempo l'ho frequentato. Puzza di Sodoma e di arroganza. Ma ti rendi conto, Parenzo, cosa dice Don Berzè? Per qualche guarda, tempo. Se io fossi Pannella lo candiderei nella lista dei radicali. Davvero, Cioè, vogliamo chiamare. Chiamiamo Di Freddi, fra poi chiamiamo Di Freddi, perché Di Freddi dovrebbe essere, no? Cioè, una sorta di testimonial delle parole di Don Berzè. Puzza di Sodoma e di arroganza, Don Farinella. Questo lo dicono i fatti, perché okay, ma lo dice Don Berzè, lo dice Don Berzè. La storia della pedofilia, dell'omosessualità, eccetera. Sostituirei le sottane paonazze con professionisti laici e sposati. Una pulizia la farei anche in certe curie di certe diocesi. Certo. Del certo, Vaticano non farei in certe curie. Non in certe curie, in tutte le curie. Ho capito. Un attimo solo, 800 24 00 24. Qui abbiamo un devo dire una contraddizione. Don Farina, lei è d'accordo al 100% con queste parole, solo che siccome le dice Don Berzè, questo è tipico tic di chi ha un po' gli occhi, secondo me, di parole. No, sono d'accordo sulla riforma della Chiesa radicale dalla testa ai piedi, ma non sono d'accordo con Don Berzè quando si presenta come moralizzatore della Chiesa, perché non è assolutamente il suo campo e lui non ha assolutamente. Questo perché? Perché ha messo in piedi anche un business. Viva Dio! Prima di dare lezione agli altri dovrebbe guardarsi dentro. Parenzo, ha fatto una rivoluzione Don Verzé anche nell'approccio del cattolicesimo alla scienza. Questo non possiamo negarlo. D'accordo. Vabbè, questo che cosa cambia? Come che cambia? Cambia che la misura, la cifra di un uomo la misura nella sua complessità. Io sto parlando su un piano e voi mi portate sempre su un altro piano. Cioè voi confondete i piani. Io sto parlando di Don Verzè, prete, che vuol fare la riforma della Chiesa. Questo è l'argomento per cui mi avete invitato. Sì, ho capito, però e lui a questo dice... argomento io rispondo che Don Verzè non è titolato non per la sua storia è un corrotto, a fare alcuna riforma della Chiesa, perché non ha la statura morale. E che quali sarebbero le sue manchevolezze morali, mi scusi? Perché è amico di Berlusconi. Le sue manchevolezze morali sono tutti gli affari che fa e che non sono sono assolutamente trasparenti come dovrebbero essere. Ma mica è stato, non è mai stato nemmeno i compromessi a cui è sempre sceso. Mi scusi un attimo, Don Farina, adesso se proprio vogliamo addentrarci in questo terreno. Ma non è mai stato condannato. Non è mai stato condannato per nulla, né credo mai indagato, insomma, francamente. Certo, ma no, ha ricevuto un avviso di garanzia, ma poi non è stato mai condannato. Forse neanche rinviato a giudizio. Che la condanna morale qual è? Scusi, Don Farina, la condanna morale quale sarebbe? Il coso? Il fatto che è amico di Berlusconi o che comunque i suoi ospedali... No, il fatto che sia amico di Berlusconi è un fatto concomitante ma anche collaterale. Aggravante, lei dice. Tutto quello che ha potuto fare lo ha potuto fare perché c'erano anche di mezzo certi amici e certi metodi. Se è vero, come a me risulta, che Paolo VI proprio per queste cose gli chiese di ridursi allo stato laicale, almeno. Va bene, comunque è un dato di fatto, anche scherzoso se volete, che negli ultimi giorni si parla, qualcuno insomma parla di una sorta di primarie, come ha detto Parenzo, per il soglio pontificio. Alleluia. Siamo stati informati che su Facebook un gruppo di volonterosi, non li conosciamo, non sappiamo chi siano, però ha presentato una formale richiesta al prossimo conclave per la nostra elezione al soglio pontificio. Poi a un certo punto ieri Otelma dice: io sono meglio del Papa, del, come lo chiama, l'Alemanno. E noi non abbiamo ancora preso una decisione e per una ragione comprensibile, non certo perché noi non siamo a quell'altezza, figuriamoci. Il problema è che noi siamo ben oltre quell'altezza, perché l'attuale stregone Alemanno è oggettivamente, come tutti sanno, un gradino più sotto, è un nostro dipendente. E poi scontro all'ultimo sangue con David Parenzo. Volevo sapere le previsioni del tempo. Vabbè, ma è divino che c'entra? Divino. Ma che c'entra il divino con le previsioni? Ma tu hai preso il divino? Divino. Vogliamo mica far ballare il divino a tema di politica, spero. No, però, ci manca solo questo. Divino, mi scusi, una delle nostre ben note specialità è proprio la politica, per cui è curioso che questo signore non sappia quello che tutti sanno. Ma Parenzo, ma dico, sei impazzito? Mi sembra che lei non sia un politologo di fama internazionale. Lei mi dice Sartori, allora ascolto volentieri, interloquisco. Vada nel sacro sito divinotelma.com dove troverà copiosamente informazioni di carattere politico, compresi alcuni vaticini. Lei non è paragonabile alla nostra persona, né terrena né divina. Lei è un cosa persona, ma lei può fare tutto quello che vuole, ma non può parlare di politica, ci può parlare, ma non è che un devoto d'accoglimento, perché lei non è assolutamente nulla. Poi quando Parenzo è andato via, caro David, c'è stata anche una stoccata finale, una stoccata finale di Otelma, dopo te la faccio sentire. Una maledizione finale. Lei è niente, è nulla, quello che ha parlato è il nulla. Ti faccio ascoltare tutto dopo. 800 24 00 24. Anna da Napoli, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo parlare con lei, e stasera mi sta divertendo molto, ma a un certo punto mi sembrava di ascoltare Pirandello. Però volevo tornare alla Presidente Bindi. Sì. E le volevo parlare di un'altra Presidente, Marina Berlusconi. Anche lei è altrettanto intelligente quanto bella. Scusi, ma che c'entra adesso Marina Berlusconi? La giornalista che ha intervistato la Bindi dovrebbe andare a intervistare la signora Berlusconi quando mangia il gelato, e poi facciamo i paragoni. Perché mi sta mettendo in mezzo la presidentissima? Parenzo, inchiniamoci, la presidentissima Marina Berlusconi. Par convince evidentemente la signora. La signora, vabbè. Perché lei dice dovrebbe andare a intervistare Marina Berlusconi, mi scusi? Così vediamo un pochino le differenze. Ah, quando qualcuno intervista Marina Berlusconi, lei dice, il tipo di intervistatore. Marina Berlusconi, ripeto, altrettanto... intelligente quanto bella. Più intelligente che bella. Più intelligente che bella. Ma non ho capito se lei è ironica con... No, io mi riferisco, caro Crociani, a che si riferisce? Al giudizio del presidente Berlusconi durante una delle trasmissioni di Ballarò. Sulla Bindi, lei dice, sulla Bindi. Ma questo che c'entra? Ma stiamo parlando di un'altra cosa. La signora Bindi, per me è una donna che si è realizzata. Ma guardi che noi non stiamo a fare, adesso stiamo, sentiamo anche male questa sua telefonata disturbata come al solito, però qui non stiamo mica dicendo qualcosa di male nei confronti di Rosy Bindi, anzi no, abbiamo... Nella sua situazione c'è molta ironia. Ho capito, qui non c'è nessuna, non sentiamo niente, signora Anna, non sentiamo niente, in questo caso non c'è nessuna ironia, è una scena esilarante, se lei va a vedersela su internet, YouTube, mette Bindi, festa, PD, eccetera, c'è la Bindi intervistata che mangia il gelato, insomma, non mi sembra una cosa normale, non è che io non ho mai visto uno che viene intervistato mentre si mangia il gelato, Parenzo, tu l'hai visto, ti è mai successo? Mai, ma stiamo promuovendo UDEM poi, voglio dire, no, ma insomma, voglio non dire... è che avrei tanti telespettatori, esatto, stiamo promuovendo in un grande contesto molto ascoltato. No, ma voglio dire, poi stiamo dicendo viva Rosy Bindi perché se ne frega, si fa intervistare col gelato in mano e dice pure, io mangio... mangio il gelato e me ne frego, poi sul fatto che sia una cosa leggera da mangiare avrei dei dubbi su questo, dice un gelato, insomma, come ci potrebbe indicare qualcuno, sono molte molte calorie, no caro Parenzo? Calorico al massimo. Tu sei magro come me. Più di una bistecca? No, è più di una bistecca, no. Se lì, su questo sei ignorante. Aspetta che sta arrivando Italo Bocchino, No, Italo Bocchino... Italo Bocchino. È appena arrivata la macchina con tutta la scorta, davanti alla sette. Ti interessa? Beh, mi interesserebbe, sì, certo, però... Adesso proviamo a catturarlo. Proviamo, voi, proviamo. In diretta. Sì, tanto una sola domanda gli devo fare, una sola domanda. Sì, adesso guarda, tutto in diretta, sta scendendo, è al telefono, bella macchina, quattro uomini di scorta, è un po' il protagonista del momento. Sì. Il direttore Mentana è già andato negli studi, peggio di TG. Un po' di tecnici e fotografi fuori dalla sede della 7 sono pronti ad accogliere il capogruppo di Futura Libertà. Scende l'uomo della scorta. Pensa che tutto questo prima non esisteva per Bocchino. Allora, Bocchino è sempre in macchina, sta telefonando, forse sta chiamando già la zanzara, quindi io non servo a nulla, però vediamo. Lo verifichiamo. Lo verifichiamo. Sempre dentro la macchina. Sempre dentro la macchina. Purtroppo dobbiamo dare la pubblicità fra poco. Sempre dentro. Sempre dentro. Sì, io sto facendo dei segni, dei gesti. Lui mi ignora. Ignora, vabbè, andiamo avanti allora. No, direi, e mi guarda con giusto disprezzo. Direi di andare avanti. Dopo quattro mesi di interim, Berlusconi sblocca la nomina del successore di Scajola. Il nome la prossima settimana. Di quale anno? Replica Bersani. Napolitano come Cossiga? Il presidente parla troppo o ancora troppo poco? Il parere del direttore del Messaggero e di quello di Libero. Tutti insieme contro Berlusconi, Rosy Bindi apre l'Ulivo a Fini e scatena l'inferno nel centro-sinistra. Sui precari grande attenzione, dice oggi il ministro Gelmini, ma appena ieri aveva precisato che sono troppi ed è ancora vero. Con lo sciame sismico all'Aquila torna la grande paura, centro chiuso per una settimana e allarme dagli esperti, il rischio è ancora alto. Quando il potere ha la faccia della normalità, a Londra, numero 10 di Downing Street, arriva una nuova inquilina di soli 10 giorni. Parenzo? Eccolo! È andato via Bocchino, sì? No, è sempre chiuso in macchina. Vabbè, ma è... ormai è diventato troppo importante Bocchino, capito? Ieri Renzi subito era lì già pronto, adesso sta in contatto continuo con Fini, con i suoi uomini, con tu... Fino a pochi giorni... è anche una chiave di lettura questa qua, no? Bocchino, ma chi se lo filava prima? Ma sai, i leader nascono così, nascono anche così, nascono anche così. Da niente, no? Beh, lui viene però dalla scuola di Tattarella, quindi lui ha una sua... ha già un suo percorso politico definito. Certo, così forte lo ha avuto grazie agli eventi di questi ultimi mesi. Hai sentito questo titolo del telegiornale di Mentana? Sulla Bindi? Sulla Bindi che propone... ogni tanto qualcuno del Partito Democratico propone la grande alleanza democratica contro, cazzata, contro Tirano Berlusconi. No, una super cazzata direi, non una cazzata. Secondo me. Aggiungerei un super. Una super cazzola. Una super cazzola, esatto. Però l'altro titolo che ti volevo segnalare era quello sul... sul Napolitano picconatore, cioè la possibile evoluzione di Napolitano, ne parlavamo anche prima. Beh, insomma, devo dire che negli ultimi giorni, anche con una certa ironia, Napolitano no, si è fatto valere. Sì, ma mi sembra fuori dalla cifra del personaggio. Figlio del re, non è molto, molto elegante, nobile. Non mi sembra l'erede di Cossiga, assolutamente. No, non mi sembra il contesto. Non ha la caratura, tu dici, la caratura, no, per carità. Eccolo, no, è davanti a me, l'onorevole Bocchino. Non so se posso passartelo in diretta, sono con la zanzara, onorevole. c'era Cruciani, direttore Cruciani. Ah, è al telefono. È al telefono. Devi aspettare qualche minuto. Vabbè. Però ti faccio sentire Otelma, perché magari lo vuoi querelare su questa cosa qui, non credo. Perché no, io querelo a nessuno. I tribunali, eccetera. Otelma su Parenzo. Noi non abbiamo ragione alcuna per indignarci per le affermazioni sconclusionate di soggetti subumani. Subumani. Subumani è bellissimo. Senti ancora questo. Quindi questo soggetto dovrebbe sottoporsi ad una analisi, a una ricostruzione endogena. Ci sono anni ed anni di lavoro per poter poi giungere ad un certo punto, ad un momento di equilibrio. Ecco. Ci vuole un simpatico TSO, vale a dire trattamento sanitario obbligatorio. Ancora. Lui vuole essere al centro dell'attenzione, ma ahimè. Ai lui, anzi, come potrà riuscirci? Soltanto rendendosi conto che lui è nulla. Io al centro dell'attenzione. Cioè, uno va in giro vestito con dei serpenti sulla testa, di verde, con degli anelli orribili portati sulle 10 dita delle mani, e io vorrei rendermi al centro dell'attenzione. Ma qui siamo al paradosso più assoluto. Cioè, qui è il bue che dà del cornuto all'asino. La cosa... Comunque, sempre la che il Signore possa perdonare anche un uomo come il divino Otelma, il Potter, Harry Potter italiano. Don Farinella non c'è più. Don Farinella è fuggito via dopo queste follie. Anche Don Farinella è scappato dopo queste cose. Ma uno che ti manda delle mail. Io sono poi finito nella mailing list del divino. Ogni giorno mi arrivano questi comunicati della cancelleria del divino hotel. Ma inizialmente io pensavo fosse una tabaccheria, perché cancelleria pensavo quelli che vendono matite, che sono fogli di carta. Invece la cancelleria del divino hotel. Ma cosa. Il prossimo. Personaggio simpatico comunque. L'unico errore di Pannella è stato quello di candidarlo. È stato pure candidato di Pannella. Sì, no, ma è l'unico errore che secondo me Giacinto, detto Marco, ha fatto. Adesso dovrebbe recuperare candidando un uomo invece intelligente, di scienza, di religione, laico, ma non laicista, come Don Verzé. Così recupererebbe veramente. Beh, Don Verzé candidato di Pannella sarebbe eccezionale. Secondo me, guarda che Marco questa cosa qui la potrebbe anche cogliere, perché ci fu qualche anno fa un dialogo molto sereno e franco tra Don Verzé e Pannella proprio sulla ricerca scientifica. Sentiamo Leopoldo da Padova, resta lì ancora se puoi. Leopoldo, appena devi staccare, dimmelo, David. Leopoldo. Buonasera. Buonasera, dica. Del signor Verzé vorrei ricordare qualche fatto che voi come giornalisti siete in grado di appurare meglio di me. Il signor Verzé è stato condannato più volte per corruzione negli anni primi 70, circa una quarantina di anni fa. Ma non credo proprio. Fermo, mi lasci parlare. Sì. Per questo è stato sospeso a divinis. Proprio quando c'era Paolo VI, di cui ho sentito parlare poco prima. Questi sono fatti che voi potete accertare. Ma non lo so, Parenzo, tu... Io non è più don da 40 anni, è sospeso a divinis da 40 anni. E comunque faceva parte di una organizzazione, la Congregazione di Don Calabria, il cui santo fondatore disse testualmente della sua piccola opera che l'opera sarebbe stata grande se fosse stata piccola e avrebbe avuto la protezione di Dio se non avesse cercato la protezione degli uomini. Se questa cosa lei la appiccica a Don Verzé, tiri lei le conseguenze. Parenzo, io veramente... No, io ho letto il bellissimo libro di Don Verzé, Pelle su Pelle, dove proprio parla di Don Giovanni Calabria, e non è esattamente come la sta ricostruendo lei. Comunque si può dare un giudizio morale. Ma sulle condanne politiche di Don Verzé, ma non credo sia stato mai condannato Don Verzé, non è mai stato sospeso, credo. Secondo me non è stato neanche rinviato a giudizio, adesso questo si potrebbe verificare. È stato indagato, ma non rinviato a giudizio. E poi anche essere indagato non è mica una cosa, cioè, vuoi dire come finisce il processo, no? Sì, no, Severino, ma... Cetaristi mandarono 18 avvisi di garanzia e poi lo condannarono per 3-4 cose, però gli mandarono 18 avvisi di garanzia. Ah. Mie... di più. Qua dice, mi citano probabilmente da Wikipedia, che però bisogna sempre prendere con le molle, nel 1964 gli viene combinata, tant'è, perché dico che bisogna prendere con le molle? Perché a un certo punto un buon tempone si è inserito, perché come sappiamo, come sai anche tu Davide, ci si può inserire insomma, certo, facilmente, e ha scritto una cosa su di me che dopo leggerò, se esiste ancora su Wikipedia, io non mi va nemmeno di correggere perché chi se ne frega. Comunque, da Wikipedia, nel 1964 gli viene combinata a Don Berzè dalla Curia Milanese la proibizione di esercitare il sacro ministero, mentre nel 73 viene sospesa di vista la stessa curia presieduta dal cardinale Giovanni Colombo. Guarda, adesso io non so, non credo che lui faccia il prete, diciamo, di straforo, no Parenzo? Non penso, no, non è una persona che si può nascondere, no? Quindi, ma no, tanta no, pubblica. Mi sembra proprio di no. Vabbè, quanto tempo hai ancora? Due minuti. Va bene. Allora, io voglio sfidare a duello il divino Otelma. Ma lo faremo, lo faremo. Lo faremo perché ormai è diventata una... uomo che veste, no, in modo orribile. Veste in modo orribile. Ma insomma, orribile, kitsch. Io però... E poi dice delle cazzate pazzesche, tra l'altro. Anna Maria da Torino, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica, cara. Niente, mi diverte. Io è da martedì avevo sentito la sua trasmissione mentre ero in auto, non sono più riuscita. Volevo intervenire sul discorso di pazienza di Dell'Utri. Che c'entra Dell'Utri adesso? Comunque sì, comunque su Dell'Utri. Dell'Utri, esatto. Lei pregava che aveva tutto il diritto di presentare i diari, eccetera, eccetera. Beh, certo, lo riconfermo qui, seduta stante. No, prima si deve dimettere, poi presenti ma tutti quella è un'altra, ma quello è un altro discorso, la dimissione dal Parlamento. Abbia pazienza, Anna Maria. No, voglio dire... Okay. Allora, che oggi, scusi un attimo Anna Maria, che oggi le procedure che dovrebbero costringere un parlamentare a dimettersi in presenza di fatti gravi siano troppo contorte, su questo non c'è dubbio, però non si può nemmeno prevedere l'automaticità delle dimissioni di un parlamentare anche in caso di gravi condanne. Parenzo, tu che dici? Non c'è dubbio, basta non dargli incarichi di rilievo, basta che non diventi presidente della commissione antimafia, ad esempio, no? Quello sarebbe il paradosso dei paradossi. Dell'Utri presidente della commissione antimafia sarebbe quantomeno una sgrammaticatura istituzionale. Fino a questo non ci siamo arrivati. Appunto, però dico, se fosse messo alla commissione antimafia, quello diventerebbe una cosa suggestiva e da combattere. Sul resto aspettiamo che finisca il processo, e se non ha incarichi rilevanti perché non può presentare i diari di Mussolini? Cioè, questo è veramente una Anna cosa... Maria, perché non li può presentare? Mi scusi. No, perché cioè, mi sembra inconcepibile che una persona coinvolta in questi fatti, io credo che anche un bambino dell'elementario abbia capito come è nata Forza Italia. Ma lei adesso la butta, adesso lei la butta sull'origine di Forza Italia, ma insomma non è un discorso credibile, è un discorso che non sta in cielo né in terra, abbia pazienza. Ma qui non stiamo parlando, non dico le origini di Forza Italia, su quello potremmo discutere anche 10 ore, 20 ore, probabilmente non arriveremo mai a una conclusione, forse i giudici non arriveranno mai a una conclusione. Il problema è un altro: perché non può parlare in pubblico dei diari di Mussolini? Mi dica una ragione, lei mi dice perché forse... 10 ore dei diari di Mussolini, però si deve mettere, dimettere. Lei dimettere, ho capito, dimissioni, lo dica Anna Maria, lo dica, Anna Maria lo dica, dimissioni, non lo so, cioè siamo a questo livello, non lo so. Sentiamo male, Davide, grazie, vai pure, grazie, buonasera. Allora, arrivederci, alla prossima, buon weekend. Buon weekend, e magari c'è questo duello Otelma Parenzo. Quando vuoi, settimana io prossima. Domani devo andare a Bari. Vai a Bari, sì, vai a Bari. E domenica da Fini. E tanto noi non siamo in onda, perché poi lunedì si parlerà di Fini, figuriamoci. Meraviglioso. Grazie, baci Davide Parenzo. Tutti tranne al divino. Beh no, adesso, il divino, un saluto. No, i baci no, infatti, beh, no. Nemmeno a me. Oh, brutto, esteticamente brutto. Siamo qui di nuovo in diretta con la Zanzara, 2013 800 24 0024 per chiamarci in diretta. Abbiamo ancora moltissime sorprese prima della conclusione, che peraltro arriverà tra tre quarti d'ora, per cui c'è tempo. Ascoltatori, però, Francesco da Varese, buonasera. Buonasera. Dica. E volevo fare l'intervento innanzitutto sul segno del Farinello. Ma perché stasera sentiamo male? Perché stasera sentiamo male tutti gli ascoltatori? Per quali motivi? Francesco, tentiamo ancora. Io sento questo. No, ma lei è disturbato, via viene la sua voce, adesso la richiamiamo, mi scusi, stasera è un casino. Enrico, provincia di Varese. Buonasera, ecco, io sono rimasto un po' scollegato e quindi quando mi hanno richiamato mentre parlavate di Dell'Utri, ma mi era venuto in mente di chiamare quando sentivo che parlavate di Don Verzee. Anche lei si sente così e così, comunque sì, Don Verzee, non si preoccupi, dica pure, vada. Ma guardi, io stamattina quando ho aperto il Corriere sono rimasto sconcertato dalle affermazioni di Don Verzee. E siccome c'era un po' pista, mi sembrava, di lui in trasmissione, volevo drammatizzare. La riflessione che ho fatto e volevo fare a tutti è questa: nel mondo cattolico sembra che sia lo Spirito Santo ad indirizzare i cardinali nella scelta del Papa. Se Don Verzee vuole fare una riforma perché sia Berlusconi a indirizzare i cardinali, può tentare. Se vuole fare una riforma perché sia Berlusconi a indicare i cardinali? Cioè... A indicare i cardinali, quale deve essere il Papa, ormai ci sono tutto, magari anche lo Spirito Santo. Vabbè, ma la lettera di Don Verzee, che sarà tra l'altro presente all'interno di un libro, è una provocazione naturalmente, non è che vuole, come la sua peraltro, Enrico. Ma sì, una provocazione, però di provocazioni mi sembra che stia esagerando, perché dall'alto del Duomo ha detto che Berlusconi è un dono di Dio. Ma è vero, tutti siamo dono di Dio. Anche il più infimo dei peccatori, però adesso secondo me una delle cose di cui si sta discutendo in questo momento è di pensionare gli ultra settantenni. Quando arriviamo a 90 forse meglio per questa parte. E lei mi ha fatto ricordare, caro Enrico, le dichiarazioni di Don Verzee su Berlusconi, le recentissime dichiarazioni di Don Verzee su Berlusconi. Lo stesso Don Verzee che oggi dice: se fossi Papa andrei a vivere in Africa, sia la comunione per i divorziati, basta visite lampo, mi fermerei nei 5 continenti qualche anno per capire la gente. Un Don Verzee terzomondista, un Don Verzee africanista, un Don Verzee, non lo so, come i preti di strada, eccetera eccetera, contro la chiesa di Gomorra, di Sodoma anzi. Sentitelo invece. Silvio Berlusconi, l'ho sempre detto, è stato mandato dalla Divina Provvidenza per salvare questo paese e lo sta facendo molto bene. Non so se lo sapete, ma Don Luigi Maria Verzee, che è il titolare del San Raffaele di Milano, sta mettendo a punto una struttura che vuole portare a 120 anni la vita media. Si possono davvero aumentare gli anni e aggiungere qualità agli anni. Traffico. Eccoci qua, 20:18, 800 24 00 24. Benvenuto alla Zanzara, Massimo Boldi, buonasera. Buonasera, buonasera Zanzarine, come va? Bene, dove si trova, caro Boldi? Mi trovo a Napoli. A Napoli, che ci fa lei a Napoli? Io vedo sole, ma però ho sole. A Napoli oggi non c'è sta sole. Non c'è sta, c'è sta la pioggia, che c'è sta? Mezzo e mezzo. Mezzo e mezzo, così così, insomma. E certo, lei non se l'aspettava il 3 settembre, no? No, no, assolutamente no. Senta, ma come ha raggiunto Napoli, per curiosità? Dove si trovava prima? Come si raggiunge Napoli da località? Napoli si prende Freccia Rossa. Freccia Rossa, comodissimo. Freccia Rossa ci mette un'ora e 5 minuti. Da Roma, naturalmente, da Roma. Ah, sì, da Roma. Senta, Boldi, ma com'è che non hanno invitato alla festa del cinema a Venezia, dove ci sono tutti i comici italiani, fanno una rassegna sulla comicità italiana? Ma non l'avete letta? Ma non avete letto le mie dichiarazioni? Sì, le abbiamo lette, ma le vogliamo sentire dalla sua voce, sennò che l'abbiamo chiamata a fa. Perché è semplice, perché mi hanno chiamato solamente ieri per invitarmi alla partecipazione di un film di Renato Fossetto, con cui io avevo avuto una parte, ma una parte... che non ero protagonista, e di conseguenza ho trovato veramente sbagliato invitare un personaggio come il sottoscritto, che ha fatto un quarto di secolo di film comici, e non solo, ma con De Sica abbiamo fatto i cinepanettoni cosiddetti, solamente per essere presente in un film dove un mio carissimo amico che è Renato Pozzetto, sì, è giusto che si goda. Però senta Boldi, qui noi sentiamo, scusi un attimo, noi sentiamo veramente male. Adesso proviamo un attimo, riabbassiamo e proviamo a richiamarla, perché lei sarà pure a Napoli, però a Napoli i telefoni dovrebbero funzionare come in qualsiasi altra parte d'Italia e del mondo. Sentiamo una voce molto bassa e un suono fastidioso. La richiamiamo subito. Intanto Francesco da Varese, con cui ci ricolleghiamo. Francesco, prego. Salve. Allora, volevo fare i complimenti a Don Farinello che ha avuto. Francesco, lei ha un problema sulla sua linea, però abbia pazienza, la voce va e viene, aggiusti il telefono prima di chiamarci, abbia pazienza, c'è qualcuno che la sta chiamando, la voce va e viene, riproviamo, avanti. Okay. Mi dica pronto. Francesco, proviamo, allora, su. Volevo fare i complimenti a Don Farinello, ha capito questo? Ah, lei voleva fare i complimenti a Don Farinello, allora? Le parole che ho detto, forse lui non riusciva. Arrivederci, buonasera, Mario da Reggio Emilia. Pronto, Cruzzani, buonasera. Io dica. Questa sera però non le faccio i complimenti per la trasmissione, perché gli ascoltatori non si sentono bene. Ho capito, che dobbiamo fare? È un disastro, no, stasera, niente, le linee non funzionano, niente, le linee cadono, e la gente stavo chiama da posizioni improponibili, non lo so. Cioè. Vabbè, guardi, dai, su. Stavo tornando a Treviso e non volevo sinceramente chiamare, però ho sentito un nome. E mi è scattato l'embolo, Rosy Bindi. E che so, l'embolo addirittura, l'embolo. Non ce la faccio più, queste proposte, tutti contro Berlusconi, ma è come quando eravamo piccoli che giocavamo a pallone, no? Tutti contro il più forte, queste implicite ammissioni di forza di Berlusconi da parte della sinistra, non ce la faccio più, guardi, veramente, lo dico da persona di sinistra. Berlusconi è che è fin troppo bravo, guardi, prima inciuccia con i musulmani, con Gheddafi, e dopo Don Verdelli dice anche con Don del Signore, quindi è anche troppo bravo Berlusconi da solo. Tutto qua. Non ho capito, a lei la proposta del nuovo Ulivo? No, assolutamente no. Viva il sindaco di Firenze, viva i giovani nella politica. Viva Renzi. Sì, esatto, viva Renzi. Non, rottamiamo non tutti, hanno, ma lei nel centrodestra. Non hanno più nulla da dire. Nel centrodestra invece chi rottamerebbe? Lei non è di centrodestra, ha detto. Di... No. Nel però chi rottamerebbe? Ma fondamentalmente, purtroppo devo dire che non avrei molte persone da rottamare, soprattutto nella Lega. Da rottamare qualcuno, ma in questo momento Casini non mi sembra possa spostare gli equilibri. Vabbè, non mi sembra nemmeno nel centrodestra Casini, non mi sembra nemmeno nel centrodestra Casini, tra l'altro. Beh, guardi, non lo so, adesso poi con le ultime voci che si sentono anche su Montezemolo, Passera, sta gente qua. Ma che c'entrano adesso Montezemolo e Passera? Adesso stiamo parlando di altre cose. Ma c'entrano perché alla fine andranno a collocarsi sicuramente in quell'area lì. In quale area? In quale area? Dell'UDC, sicuramente pseudo-democristiana, dell'UDC. Pseudo-democristiana, Mario, ma di che stiamo parlando? Vabbè, grazie. Niente, arrivederci, buonasera. Tentiamo di nuovo la fortuna con l'amico Boldi, eccoci qui. Allora, eccomi qua, adesso eccoci. Sentite? Meglio. Però, caro Boldi, lei è un comico, una persona che ha tanti anni alle spalle, eccetera, dovrebbe dire, ma io di Venezia me ne frego, perché questa polemica sulla, tra virgolette, censura? Deve dire, vabbè, non mi vogliono invitare, chi se ne frega? No, perché è sbagliato, perché la storia non è che la scriviamo noi. E chi la storia rimane. La storia rimane, appunto, dico, la storia rimane, allora, chi se ne frega. Momento. Un domani, quando non ci saremo più, forse potrebbero anche dire che Boldi era uno psicopatico che magari inventava le cose. Invece non è così. E chi si sarebbe inventato lei? Perché mi sarei inventato 100.000 cose, siccome sul mio conto se ne sono state dette molte da quando mi sono separato da De Sica. Allora a questo punto bisogna essere chiari, soprattutto chiarezza, onestà, lealtà e poi il resto. Poi a parte il fatto che io ho dalla parte mia il pubblico che mi vuole molto bene, sì, specialmente i giovani, i ragazzi. Però scusi, che cos'è che rimprovera agli organizzatori di questa kermesse? No, rimprovero solamente il fatto che Marco Giusti, che è quello che aveva organizzato e che ha organizzato questa retrospettiva, sì, praticamente inizialmente non aveva previsto di chiamarmi, ma non tanto di chiamarmi per partecipare a un film di cui io avevo fatto solamente una partecipazione. Sì. Ma fate un film dove io ero protagonista, tipo Fratelli d'Italia, sì, o tipo Sognando la California, oppure I Vacanze di Natale, oppure i due carabinieri. quello che Carlo Verdone poi ha presentato l'altro giorno, ha presentato invece un altro film. Voglio dire, non è che si possono sempre... Ho capito, insomma, lei rimprovera, rimprovera gli organizzatori di Venezia che fanno questa retrospettiva. Non è che rimprovero, io dico solamente che bisogna essere un attimo più attenti. Secondo lei cosa è successo? È come se dovessimo parlare del Festival di Sanremo e poi dice, ah già, c'era anche Domenico Modugno. Ah no, c'era Claudio Villa, no, fa niente, ma come no, ma stiamo scherzando. Credo che il signor Bolli abbia dato al cinema degli anni Ottanta in poi, abbia dato sicuramente un apporto molto forte. E dunque lei voleva essere lì a Venezia insieme agli altri suoi colleghi? Ma io non volevo essere a Venezia, io volevo solamente avere giustizia e di conseguenza ho veramente reclamato. Vabbè, senta, io andando a ripescare un po' in alcune sue interviste del passato, perché insomma lei è una persona simpatica, divertente, senza peli sulla lingua, le voglio chiedere una cosa: ma lei è ancora molto legato a Berlusconi? Questo cosa c'entra? No, non c'entra nulla, infatti sto dicendo questo. Io è un'altra... sono stato legato prima a Bettino Craxi, prima. Forse lei non lo sa neanche. No, lo so. No, lei non lo sa. Come non lo sa? Non lo sa, se mi fa questa domanda non lo sa. No, ma io non lo dicevo mica in senso negativo, Boldi. Nel 1992 sì. Ero stato legato a Craxi, tant'è vero che ho fatto anche la campagna elettorale del 1992. Ma io guardi che io lo so benissimo, ma non lo dicevo mica in senso negativo perché lei ha un rapporto particolare con Berlusconi, mica era inteso in... Io con il cavalier Berlusconi ho iniziato a fare la televisione. Sì. Quando ancora nel 1977 non esisteva Canale 5, ma c'era Canale 58, il signor Massimo Boldi era stato chiamato da Piero Mazzarella per il cavalier Berlusconi, che faceva un piccolo programma su Milano 2, una televisione piccola. Perciò io conosco il cavalier Berlusconi e devo molto a lui, perché insieme abbiamo creato... quella che poi ma guardi, conoscendo quello che lei sta dicendo, lo davo per scontato. Dunque le stavo chiedendo se ancora negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, sente ancora Berlusconi, se lo sente ancora. Questo era il senso della domanda, capito? Ma credo che le amicizie rimangano, no? E questa situazione politica lei come la vede? Confini, cosa dovrebbe fare Berlusconi Confini? Così, una curiosità, lei che così... un'altra domanda è complicata, secondo me è troppo complicata? Ma è complicato perché c'è una spaccatura interna e appunto, di conseguenza è complicato. È una ma lei cosa... che consiglio darebbe a Berlusconi su Fini? Di rompere, di cercare una riconciliazione? Che consiglio darebbe? Io sì. Io penso che sia la cosa migliore. Cosa? Quale? Fare una riconciliazione. Una riconciliazione? Beh, lo vede, insomma... secondo lei dovrebbe sforzarsi di fare una riconciliazione con Fini? Io penso sempre che è meglio che pagare una multa un accordo, ecco. Ma capisci, questo è in linea di massima. Meno male. Senta, mi fa una promessa a Boldi? Quando spesso a Milano, sì. Sì, io abito a Milano. Perché non ci viene a trovare un giorno? Qui, Radio 24, solo 24 ore. Voglio venire quando uscirà il 26 novembre il mio prossimo film. A Natale mi sposo. Benissimo. E allora? Per la promozione al film vengo, parliamo. Adesso non solo per la promozione, magari, parliamo un po' di tutto. Allora, parlare di tante altre cose. Di tante altre cose. La invito ufficialmente per la promozione del film. Di cinema, di televisione. Di politica, di tutto. Passato, di cinema, televisione, politica, tutto. Va bene, allora per la promozione del film qui, negli studi di Radio 24, ho la sua promessa. Ok. A novembre, grazie. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato, rimani così. Buonasera a tutti, cominciamo questa sera una serie di interviste che faremo qui alla Festa Democratica. Come meglio cominciare che con il presidente del nostro partito, che si sta giustamente gustando un gelato perché immaginiamo non abbia ancora cenato. Questa è la cena. È la cena, brevissima, una donna di essenziale. Se ceno per tutte le feste che faccio non so come divento. Bella sei già bella, noi piaci così. Presidente, ti facciamo un paio di... Posso darti del tu? Posso darti del tu, poi eccezionale. Rimani così. 800 24 0024, volata finale della Zanzara, ma siamo sempre qui, siamo sempre allerta, può succedere sempre qualcosa. Marco da Ferrara, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, io sono un di lavori, nel senso che sono un politico dilettante. Perché questa sera non si sente niente? Perché? Pronto? Ditemelo voi, perché? Mi Marco. Sente? Pronto, mi sente? Sì, sì, adesso meglio. Mi sente meglio. Bene adesso? Sì, dica. Guardi, io sono un politico dilettante, nel senso che sono un esponente del PDL della provincia di Ferrara. Sì. Proprio dove c'è la festa di Mirabello, dove domenica parlerà l'oracolo. Sì, l'oracolo sarebbe Fini. Sì, sì, d'altra sì. Parte è anche vero che nella vita reale le telefonate cadono, le telefonate sono disturbate, non ci sento, e questa, come sapete, qui alla Zanzara... No, no, ma non stavo facendo una considerazione più generale, Marco, non si preoccupi, lei la colpa non è sua. Dica. Io sono obiettivamente molto deluso dal comportamento dell'onorevole Fini, di tutta la sua squadra, dal suo portavoce, dal nome impronunciabile. Ma è impronunciabile, Bocchino, adesso non esageriamo, è pronunciabilissimo, anzi molto, molto in voga, insomma, è un nome che rimanda a cose conosciute da tutti. Chiaramente, infatti... Ma non è impronunciabile, tutt'altro allora. No, a me fa scappare da ridere, sì, anche per l'aspetto... Ma lei è in viva voce, Marco? Lei è in viva voce, allora. Io la sto chiamando da un cellulare da quando sono in attesa. Ho capito, ma è in viva voce o col cellulare? Io sono in cellulare, fermo a casa mia perché sono già arrivato. Cellulare fermo a casa sua, vabbè, allora? E quindi sono molto deluso dalla rottura che l'onorevole Fini... Vabbè, ho capito, però lei già dicendo l'oracolo ci ha fatto capire che mi sembra... Io credo che l'onorevole Fini sia da collocare a sinistra, perché vabbè. Si parla, si comporta, si proprio come... Vabbè, questa è scontata però, Marco, l'abbiamo già sentita da 6 mesi questa cosa, di Fini diventato di sinistra. Ho scritto un articolo che verrà pubblicato in 5.000 copie a livello locale, quindi spero che... Come verrà pubblicato in 5.000 copie, mi scusi? Sì, perché io scrivo su un piccolo giornale. Ah, ho capito, allora? Che ho scritto elezioni subito, credo che le elezioni, come dice la Lega, come dice Bossi adesso, anche se la Lega, siano la soluzione. Vabbè, lei dice elezioni subito, anche qui siamo nel campo, diciamo, dell'ovvio, allora... E allora niente, credo che l'idea di Fini sia quella di logorare Berlusconi, e Berlusconi fa bene andare subito alle elezioni, altrimenti il paese va alla deriva, va a finire come dice l'onorevole Bersani. Ecco, va bene, grazie. Fausto, provincia di Parma, buonasera. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Io volevo innanzitutto farle complimenti, perché in realtà io credo che il lato economico in un lavoro sia importantissimo, ma i complimenti facciano sempre piacere, e dirle una cosa semplicissima: io ho 21 anni, quindi mi metto tra i giovani, e non sono mai stato, almeno, appassionato di politica, nel senso, l'incontro con la sua trasmissione è stato casuale, un giorno in autostrada sentivo il traffico e mi è capitato di imbattermi. Da quel momento non sono più riuscito a smettere di ascoltarle, questo spero le possa fare piacere, via. Grazie, certo che mi fa piacere, fa molto piacere. La mia domanda era molto semplice e vuole essere anche un po' provocatoria, via. Come un ragazzo giovane come me, ripeto, 21 anni, può e si deve appassionare alla politica? Beh, ci sono tanti modi, Fausto, per appassionarsi alla politica, anche in queste diatribe che spesso sono ridicole. Si trova sempre il modo di appassionarsi alla politica, che certo non deve essere appassionarsi alla chiacchiera quotidiana in cui noi sguazziamo, naturalmente, che ci piace, perché la politica è fatta anche di screzi personali, di scontri qualche volta inesistenti dal punto di vista del contenuto. Ma insomma, io credo che poi alla fine gli italiani abbiano una grande passione per la politica, questo è dimostrato al di là di quello che si può pensare, al di là di quello che si legge poi sul rapporto che hanno con la politica. Credo che ci sia grande passione, come dimostrano i risultati di tutte le tornate elettorali, nell'affluenza. Grazie. Giuseppe da Verona, buonasera. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Le fanno tutti i complimenti, io devo farle un appunto invece. Ma no, faccia pure, sai che a me il miele non mi piace, mi piace più il sangue. Ma no, mi riferivo all'intervento, innanzitutto complimenti, anche io lo ascolto volentieri. Però ho trovato un po' eccessivo prima quando ha chiamato la signora che si lamentava dell'intervento del senatore Dell'Utri che diceva che anche i bambini delle elementari sanno come è nata Forza Italia, no? Non lo condivido più di tanto, però il fatto che lei urlasse dimissioni la prendesse quasi in giro per questa sua sensazione nei confronti di Dell'Utri, ma secondo lei una persona non ha diritto, anche se è di destra, non ha diritto di indignarsi alle volte di fronte o comunque di manifestare il suo dissenso senza dover essere presa in giro, anche perché poi non sentiva, è stato messo poi giù il telefono. Capisco che poi è successo che la sua trasmissione, che io peraltro apprezzo, sia data anche da queste forme provocatorie, però non è giusto anche rispettare quando una persona dissente di fronte a, comunque a una persona che è stata condannata, seppur con sentenza non passata in giudicato per mafia. Lei non si indigna? Io no, non mi indigno. Perché cosa dovrei, cosa dovrei indignarmi? Scusi, non ho capito. Ma che un senatore della Repubblica sia stato condannato con sentenza non passata in... Non mi indigno, a parte che è stato condannato in secondo grado e non in via definitiva. Poi di che cosa dovrei indignarmi? No, infatti ho detto che non è passata in giudicato la sentenza. Ma di cosa dovrei indignarmi? Non ho capito di cosa dovrei indignarmi. Dell'esistenza di Dell'Utri? Del fatto che Dell'Utri è un essere umano? Di che cosa? Del fatto che sia, del fatto che sia in Parlamento Dell'Utri? Sì, che sia in Parlamento lui, come lo è stato Previti, che è stato condannato in via definitiva, come lo siano tanti. Io penso che i principi di destra, il principio della legalità, non viene più considerato come un valore vero. Non so, questo sa, adesso parlare dei valori della legalità, le cose, sì, può darsi che lei abbia ragione, non so nemmeno se sia un valore di destra o di sinistra. Questi mi sembrano un po' slogan, francamente. Giuseppe, lei mi ha fatto una domanda. Lei si indigna perché Dell'Utri è in Parlamento? La mia risposta è no, non mi indigno. Neanche se fosse condannato in via definitiva? In via definitiva, certo. In via definitiva, secondo me, si dovrebbe dimettere dal Parlamento. Un altro discorso. Solo quando è condannato in via definitiva, certamente. E poi bisogna vedere anche per quale reato, naturalmente. Se uno viene condannato in via definitiva per diffamazione... No, certo, qui l'associazione... È un altro discorso. Ma là ci vuole maggiore automaticità nelle dimissioni. Oggi le procedure sono un po' farraginose da questo punto di vista. Guardi, no, non mi... Poi, tra l'altro, ripeto, per l'ennesima volta, l'indignazione non fa parte del mio carattere, non so come dirle, Giuseppe, per cui... non. E mi dice mi indigno, no non mi indigno. Però lo rispetta chi si indigna. Ma certo che lo rispetto, figuriamoci, altrimenti non esisterebbe nemmeno questa trasmissione se non ci fosse... No. Sì, no. Cioè, ma certo sì. Che lo rispetto, poi naturalmente può succedere di prendere in giro le persone come prendono in giro me, come ci prendiamo in giro da soli a vicenda con Telese e con Parenzo, per cui si figuri, ma qui sì. Io ho avuto occasione quest'estate di leggere il libro di Enrico Bellavia, non so se l'ha letto, Un uomo d'onore. No. Che raccoglieva le parole di Francesco Di Carlo. Di solito non leggo pochissimi libri sulla mafia, solo per quando l'ho fatto per lavoro, per fare una trasmissione televisiva, il resto non difficile che... questo per lavoro. Comunque io anche il garantismo è un valore di destra. Ma no, sicuro. Ma io non so se sia destra o sinistra, credo che debba essere comunque un valore, non c'è dubbio. Bene Giuseppe, sì. Grazie, alleluia, grazie, ripartiamo. Pier Giorgio Di Freddi, buonasera. Buonasera a voi, come va? Come sta? Dove si trova, caro Di Freddi? Non la sentiamo più, beh certo, ancora non è ripresa. Non mi chiamate più, altrimenti mi sentireste. No, dove è stato in vacanza Di Freddi? Sono stato in Portogallo. Oh, in Portogallo. Mi sono portato dietro il libro di Saramago, Viaggio in Portogallo, quindi ho fatto questo viaggio insieme alla mia compagna e a questo eccezionale anfitrione o Virgilio che era Saramago. Che era Saramago e che l'ha accompagnata in questo viaggio in Portogallo, durato? Poco, un paio di settimane semplicemente. Quando è che riprendiamo l'attività vera e propria? Lei che torna a fare radio, televisione, che torna a fare? Qualcosa? Dunque io da due giorni ho un blog su Repubblica e mi stanno sommergendo di risposte. Su Repubblica.it? Da due giorni? Repubblica.it. Da due giorni? Si chiama Il non senso della vita. Da due giorni? Beh, lo seguiremo, Va bene. Lo seguiremo. Senta, Di Freddi, ma... ha letto questa intervista incredibile di Don Berzè a questo intervento sul Corriere della Sera, un brano che sarà pubblicato poi su una rivista che si chiama COS, che è la rivista bimestrale del San Raffaele. Le dico qualcosa, so che lei ha letto poco questo intervento di Don Berzè, il titolo è questo. No, ho letto, però ne ho sentito parlare. Eh beh, certo, Don Berzè, se io fossi Papa andrei a vivere in Africa. sia la comunione per i divorziati. Senta questa è straordinaria. Se io fossi papa, anziché fare visite lampo con costose comparse oceaniche, mi fermerei nei 5 continenti qualche mese e magari qualche anno a vivervi, come facevano Pietro, Paolo e gli altri, trattando con tutti il meglio e più opportuno per quel paese, quella città, quei costumi. Permarrei soprattutto in Africa, perché sono convinto che da là ripartirà la salvezza per tutto il mondo. Non vorrei con me nessun dignitario, né cardinali, ma truppe di medici, truppe di infermieri e di volontari. Ricordo che per una simile proposta Fidel Castro era pronto a darmi 200 medici cubani. Spettacolare. Mi circonderei permanentemente di bambini, mangerei quello che mangia loro, insegnerei arte e mestieri a mangiar meglio, con loro coltiverei la terra che a tutti è in grado di dare alimento, come ha stabilito il Signore quando la creò. Insegnerei. Mai sgriderei i vescovi e i sacerdoti se si sposassero. Questa è straordinaria, eh? Mai sgriderei i vescovi e i sacerdoti se si sposassero. Manco proibirei la pillola anticoncezionale. L'Africa sa già quanto è orrendo l'aborto. Mai per nessun motivo applicherei l'istituto della scomunica. Nulla è più avverso allo spirito del Signore, sempre misericordioso, buono e perdonatore, salvo le ipocrisie e il falso fariseismo. Un altro passo, eh? Come vado a recitazione, eh? Odifreddi? Sì, mi sembra in effetti una pièce teatrale, ma comunque, non so, se posso fare tre osservazioni. Anzitutto, la prima è che sento Don Berzè in un insolito modo molto umile, diciamo, perché da lui mi sarei aspettato un'intervista cosa farei se fossi Dio, no? Invece evidentemente, essendo in vena di umiltà, si accontenta di essere Papa. Ah, perché lei dice, Don Berzè è talmente pieno di sé che punta oltre il soglio pontificio. Altro che. Secondo, mi sembra che queste dichiarazioni spieghino abbastanza in maniera approfondita come mai Don Berzè non è Papa. E certo mi viene da fargli una domanda, ma scusi, ma perché soltanto il Papa può andare in Africa? Se vuole andare in Africa ci vada, no? Per qual motivo non ci può andare? Cioè, è comodo dire se fossi Papa ci andrei, no? Andrei a vivere in Africa, lei dice, perché non ci va direttamente senza essere senza appunto, bisogno di essere Papa? Se Fidel Castro gli dava pure i soldi, cosa deve aspettare di diventare Papa per andarci? E questa ci sta tutta. La terza cosa, aspetti però, prima della terza cosa, narro, diciamo così, un altro passaggio, perché è un passaggio fondamentale. E se uno mi chiedesse di poter fare la comunione pur essendo divorziato, gli chiederei se chiusa la prima intesa tra le parti, perché matrimonio è un contratto tra due, si sente ora sicuro di amare e di essere amato. Se sì, gli direi di fare la comunione quale sacro cemento del vero amore, tanto più sacro quanto più sofferto. Insomma, sì alla comunione per divorziati. Ma c'è un altro passaggio che è fondamentale, Odifreddi. E il Vaticano, ne farei un oracolo di Delfi per ogni sapere, per qualche tempo l'ho frequentato. Puzza di Sodoma e di arroganza. Sostituirei le sottane paonazze con professionisti laici e sposati. Una pulizia la farei anche in certe curie di certe diocesi. È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei. Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori. È tornato Don Lio Fanzaga, sentitelo su Don Berzè, sferzante. Sicuramente Don Berzè andrà in paradiso per la carità, ma non certamente andrà in paradiso per la dommatica, per tutto il resto che dove fa, qua da tutte le parti. Però la frase più bella la dice alla fine, quando dice: chi mi legge, il resto sono immagini, cioè immagini cosa farei io se fossi Papa. Ma non ci spieghi, perché Papa dice non lo sarò mai. Bravo, questa sì che è una bella chiusura. Papa non lo sarò mai, per fortuna. Caro Don Verzè, il Papa ce l'abbiamo e stretto ce lo teniamo. Odifreddi, eccoci qui. Questo è Don Livio Fanzaga, che certamente... No... abbiamo sentito che sei. Vabbè, Fanzaga lo sa, il leader di il megafono di Radio Maria. Adesso no, certo, è una bella battaglia tra lui e Don Berzino. Non ce la pigliamo pure con Don Ivo Fanzaga. Volevo commentare la faccenda sui divorziati, perché ovviamente è chiaro che in questo caso Don Berzino getta la maschera, no? E sta pensando a Berlusconi. Ah, ecco, eccoli. Odifreddi, però avvicini un attimo. E poi frequentare Berlusconi mi sembra che, insomma, no, faccia un po' cascare, no, la maschera a questo strano. Cioè, in che senso, mi scusi? Ma nel senso che certamente bisogna criticare Sodoma e Gomorra, no, nel Vaticano, ma mi sembra, no, che ci siano Sodoma e Gomorra pure a Palazzo Chigi, no? Che invece tra l'altro Don Berlusconi frequenta, adesso non so se vada direttamente a Palazzo Chigi, anche perché non ha bisogno di andarci, perché ci viene Berlusconi direttamente, no, al San Raffaele a trovarlo. E quindi, insomma, mi sembra che si usino due pesi e due misure, mi pare strano che sia io che debba difendere il Papa, ma naturalmente... No, ma per carità, qui non stiamo né difendendo né attaccando il Papa, però restiamo un po' alle parole di Don Berzè, insomma, sono parole anche quasi da prete di strada, no? Andare in Africa senza i cardinali, restare a vivere in Africa, sia la comunione dei divorziati, sia il profilattico, tante altre cose, no? Prendiamo le cose positive, naturalmente secondo una certa corrente di pensiero. In realtà c'è bisogno di aspettare Don Berzè che ce le dica queste cose. Cioè, secondo lei Don Berzè non è credibile? Noi, no? Non è credibile su questo? Ma no, se si può essere anche credibile, certo, Dio le dice a 90 anni, no? Quando ormai nessuno gli può più dire nulla, no? E poi soprattutto non riesco a capire appunto questo fatto di aspettare di essere Papa per fare tutte queste cose, ma se le vuole fare le faccia, no, naturalmente. Tra l'altro lui ha già preso delle posizioni a volte anche coraggiose, per esempio quando ha detto di aver praticato l'eutanasia. Sì. Non mi sembra qualche anno fa, no? Quindi sicuramente è una persona spregiudicata, d'altra parte sappiamo che la sua spregiudicatezza non si limita soltanto ad avere delle divisioni aperte nel campo, nei campi in cui la Chiesa ce l'ha più chiuse, ma anche per esempio degli affari, no? Senta, se fosse Papa cosa fa? A tutto campo. Mettiamo, se fosse Papa cosa farebbe secondo lei? La prima cosa che farebbe quale sarebbe? Quale potrebbe io? Essere? No, lei non è molto difficile. Don Berzè ha più possibilità di lei, su questo non c'è dubbio. No, non credo, perché in realtà per essere Papa, innanzitutto, qualunque cattolico può essere Papa, ma esatto. In realtà la tradizione è che bisogna essere cardinali, prima di tutto Don Berzè non sì, lo è, certo. E non bisogna avere più di 80 anni, quindi chiaramente anche se fosse cardinale. Ma dunque, da questo punto di vista ha più possibilità a lei, effettivamente è vero. senta, ma se Don Berzè fosse Papa, la prima cosa che farebbe, per esempio con Berlusconi, che farebbe? Io credo che farebbe nel primo concistoro farebbe Berlusconi e Cacciari tutti e due cardinali. Berlusconi e Cacciari cardinali. E naturalmente questo è un rischio enorme, perché poi ce li potremmo ritrovare sia l'uno che l'altro papi prima o poi, no? E quindi, meglio Cacciari di Berlusconi comunque come papa, secondo me, Non saprei. Vabbè, messo che ce l'ha pure con Cacciari lei, Odifreddi, che l'ha fatto? No, io non ce l'ho con Cacciari, ma mi sembra che è vero che questo Cacciari forse dal punto di vista filosofico è molto vicino a Benedetto XVI. Credo che vengano facciano parte della stessa banda filosofica, no? Vabbè, adesso andiamo sulla filosofia. Odifreddi, grazie. 20:51 800 24 00 24. Anche Odifreddi si sentiva male, ma stasera è andata così. Andiamo a Anna Maria da Torino, velocemente. Anna Maria. Buonasera. Buonasera. Dica. Niente, io in effetti avevo telefonato, ma non per parlare con dell'Utri, ma l'apertura dei telegiornali, le vostre passate trasmissioni offrono così tanto. Anche Anna Maria si sente poco, stasera sono imbufalito per questa cosa. Amedeo da Napoli, buonasera Amedeo. Buonasera, ciao. Da Napoli si sente meglio. Sì, allora no, una voce di dentro al Partito Democratico, ho 27 anni, sono stato anche candidato 2 anni fa nelle liste del Partito Democratico con Veltroni, sì. Tra l'altro ero il più giovane candidato, per dirla se Veltroni avesse vinto sarei in questo momento parlamentare, vabbè questo non interessa, comunque una voce del PD per dire che le parole della Bindi mi sembrano abbastanza sconcertanti, cioè l'idea che non c'è nessuna proposta politica programmatica, piattaforma programmatica che sottende questa alleanza confini, questa sacra alleanza, non si capisce, che mette dentro tutti. Pensavo sinceramente che speravo almeno che la lezione dell'Unione fosse servita a qualcosa, invece mi rendo conto che sono passati 2 anni e mezzo, 3 anni circa, ho sempre criticato Veltroni, mi rendo conto forse aveva visto un po' più lungo di qualcuno, nel senso che aveva avuto una visione un po' più lungimirante. Sono sconcertato e credo che questa sia una divisione abbastanza ampia dentro il Partito Democratico, perché le parole della Bindi sono abbastanza forti e non le sento di dire che non le condivido. Sì, però è anche vero, Amedeo, che le parole della Bindi di oggi, la grande alleanza eccetera, che ripercorrono un po' quelle di Franceschini, no? La nuova resistenza contro il tiranno, sono frasi buttate lì, ma insomma non, che poi non danno l'idea un po', come dice lei, non dico dello sbandamento, ma della mancanza un po' di idee dell'opposizione. Però sono cose che poi non troveranno mai sbocco in qualcosa di concreto, o sbaglio? Un bocchino imbarazzante però, Come, scusi? Farsi dire di no poi da fine del bocchino è un po' anche imbarazzante per il Partito Democratico. Ma in realtà non c'è nemmeno nessuna proposta concreta, no, però, da questo però punto però credo di che questo sia una spia di un segnale, insomma, che il Partito Democratico non c'è una piattaforma programmatica e progettuale per quello che si vuole fare per questo paese. Questo è il dato allarmante, credo. Sì, anche Veltroni, che l'aveva candidata in Campania, però su questo ha sbandato. Sì, no, io non critico, io sono stato anche fortemente critico nella mia vita, diciamo, breve vita politica con Veltroni, anche negli scorsi congressi ho votato Bersani, però insomma, prendo atto, insomma, che la gestione di Bersani non sta producendo, secondo me, quella progettualità politica, quella piattaforma programmatica sui grandi temi del paese, dove io penso che la riforma della giustizia, riforma del mercato del lavoro, manovra finanziaria, riforma dell'università e della scuola, non so ancora qual è la proposta progettuale politica programmatica del PD, che non c'è, cioè sui grandi temi di questo paese non c'è. Grazie Amedeo. Marino da Rimini, buonasera. Marino, che è la moglie? Sì, buonasera. Buonasera Marino, ma state mangiando già? No, io ho già cenato. Ah, già, c'è, che ha mangiato stasera? Io ho stasera, sì, una roba orrenda, polpette. Come orrenda? Sono ottime le polpette. No, per me, mia moglie me le ha fatte, però per me sono una cosa orrenda. E come? Allora, se non ho capito, sua moglie le ha fatto lei non è sposato. Ma insomma, Marino, a parte che non è vero, ma comunque insomma le non ho capito la questione delle polpette, mi scusi. Bisogna mangiare quello che passa la casa. Quello che passa la casa si mangia. Sì, è come sentire la sua radio. Come, bisogna sentire quello che passa la casa. E che passa oggi? Poco. Cioè non si è divertito. Io ho telefonato veramente perché avevo sentito Giannino. Che l'altra mattina ci ha sfrangolato il basso ventre con un discorso sul licenziamento degli operai di un sindaco del Friuli. Vabbè, però Marino, qui siamo in conclusione, vorrei sapere che cosa avevano di strano quelle polpette. Niente, erano polpette. Ho capito, a lei non piacciono le polpette, allora dica a sua moglie, mi passi sua moglie un attimo, Marino. Se vuole gliela passo, mi passi la radio di là. Mi passi un attimo sua moglie, un secondo. È garantito che lei le fa. Perché a lei piacciono. Ho capito, mi passi sua moglie a questo punto. Scusi un attimo, se vuole mi passi sua moglie un secondo, così almeno risolviamo questa diatriba una volta per tutte. La diatriba? No, ma è risolta la scelta. No, la voglio risolvere, Marino, la voglio risolvere. Scusa, non vuole parlare. Come non vuole parlare? No, assolutamente. No, ho capito, qui devo risolvere questo problema. Sua moglie ha detto che lei vuole solo sapere quanto ha speso la moglie di Bossi per mandare avanti la sua scuola. C'è un finanziamento, ma possibile che voi alle 21, alle 20 e 56 e 44 di venerdì state pensando alla moglie di Bossi? Marino, 54, io e Valeo, ho capito, ma lei non si rilassi, non pensi alla moglie di Bossi a 800.000 euro, non ma mi ricordo sono quanti sono. Rilassatissimo, anche perché la moglie di Bossi, se non altro, mi risulta che se è la mamma della trota deve essere meridionale. Ma sì, ma Marino, io voglio capire le polpette, che avevano di strano queste polpette? Le polpette, aspetti che non hanno niente, sono polpette. Mi passi sua moglie, me la passi, la prego, mi passi sua moglie. Questa non vuole. Non vuole, allora facciamo così. Non vuole parlare con lei e mi fa le polpette. Ci sentiamo. Sono due cose che purtroppo dobbiamo assorbirci, dobbiamo prenderci anche queste cose e stare pure zitti. Ci sentiamo lunedì. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.